Cari amici di Runtime, è giunta l'ora. Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. Carissimi amici di Runtime Radio, bentornati a questo primo vero episodio di Ludico Forum. È il secondo episodio in realtà, però lo consideriamo come il primo, dato che la puntata zero noi la sperimentiamo sempre, una cosa che mettiamo sempre lì come sperimentazione. Questa volta parleremo di qualcosa che va un po' oltre il videogioco, come faremo spesso all'interno del nostro podcast. Cercheremo insomma di andare ben oltre il singolo ambiente del videogioco e cercheremo anche di entrare negli altri medium, ma su tutto quello che è un po' l'interazione con ovviamente l'intrattenimento. Quindi insomma vedrete che ci saranno puntate veramente veramente particolari. Io sono Simone Pizzi, produco questo podcast come già sapete insomma da tantissimo tempo insieme ad Alex Raccuglia. Facciamo questa nostra nuova produzione che è l'erede di Videoludica, chiaramente insieme a Simone Cusella, Marco Gualdi, Carlo Burigana, Francesco Di Muro, Carlo Sant'Agostino, Walter Sbano e ovviamente Puccio Console che c'è questa sera con noi. Ciao Carmine. Carmine? Mi scusate, il push to talk mi ci devo abituare. È strano che c'è il push to talk, forse non te l'ho disabilitato. Vabbè, stiamo provando Discord questa sera su suggerimento dei nostri ospiti, perché siamo proviamo a uscire da quello che è il maledetto mondo di Skype. Vediamo un attimo insomma se riusciamo a trovare, però poi ogni nuovo strumento c'ha bisogno del suo tempo di addestramento. E quindi Carmine, benvenuto. Grazie. Bene, abbiamo in questa prima puntata il primo ospite, è uno scrittore, è un game master, è un giocatore, è un ingegnere di curvatura, penso insomma a tante altre cose, Marco Cipolla. Ciao a tutti, magari ingegnere di curvatura. No, magari. Non sei ingegnere di curvatura, mi sono sbagliato, scusa. No, hai detto quasi tutto, ingegnere e basta. E vabbè, sempre meglio. Comunque, la curvatura prima o poi arriverà, insomma, non sappiamo quando. Abbiamo invece due youtuber. Uno, il primo in ordine, diciamo, assolutamente casuale. Abbiamo Leonardo Alawin Tonna. Madonna, entra nel ring, grazie per l'invito, ragazzi. È un parolone youtuber, devo dire, mi sento quasi... È una cosa grossa. Poi lo spieghiamo. Però, lo spieghiamo bene. Il secondo invece è Valerio Valenti, in arte Ciriola Let's Play. Ciao Valerio. Salve a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Che poi parleremo anche di questa cosa del Ciriola, no? Perché insomma, chi non è regionalizzato. Molti non sanno cosa sia e molti mi scambiano per donna soltanto dal nick, quindi insomma se ne parleremo, va bene. Ok, va bene, faccio una piccola intro che serve per spiegare di che cosa parleremo questa sera. In questo episodio di Ludico Forum, del quale il titolo dice tutto, faremo un viaggio che prescinde dall'intrattenimento digitale in sé. Dal gioco puramente verbale alle forme più strutturate con carta e penna, dalle varie reinterpretazioni del gioco di ruolo e del racconto interattivo in ambito digitale, dal ruolismo videoludico fino al gioco potenzialmente più passivo, oggi parleremo di come è possibile arricchire la propria esperienza ludica, qualunque essa sia, con l'interpretazione. Oh, è un tema pregno, insomma, questa sera insomma ci vogliamo cimentare in una serie di discorsi, di ragionamenti, cercando di passare insomma, tra le mie delle voci, ovviamente i nostri ospiti ai quali abbiamo elaborato delle domande. Poi queste domande ovviamente verranno poi rimbalzate un po' a tutti, perché cercheremo di fare chiaramente una sorta di ragionamento collettivo. Prima di iniziare, comunque, cercateci, ragazzi, su Telegram come Ludico Forum, cercateci anche su Facebook come gruppo di discussione, cercate anche Runtime Radio su Telegram, chiaramente, e se volete www.runtimeradio.it, cercate, insomma, lì ci sono tutte le informazioni, tutti i show, tutti i programmi che fa Runtime Radio, ma soprattutto c'è Runtime Anch'io, dove potete andare a fare tranquillamente le vostre donazioni se volete, chiaramente, insomma. Ricordatevi sempre che tutto questo non è gratis per noi, ma è gratis per voi, insomma. Quindi non voglio fare come quel famoso podcaster che diceva che se non cacciate i soldi smettiamo e chiudiamo tutto. Non è vero, non facciamo assolutamente. Va bene, allora, Marco, intanto volevo iniziare da te. Prima di tutto presentati, perché noi abbiamo detto scrittore, narratore, game master e giocatore, però quindi vuol dire che tu poi alla fine sei anche autore, insomma. Bah, allora, ti dico, sono fondamentalmente un ingegnere che da quando era ragazzino, parlo dei miei 16 anni, ho iniziato a fare il classico gioco di ruolo. 16 anni erano gli anni 90, 94, 95, e ho iniziato prima a giocare giochi di ruolo, quelli pen and paper, come si diceva una volta, quindi Dungeons and Dragons, Cyberpunk 2020 e quant'altro. E poi il passo è stato relativamente facile, perché avendo una grande fantasia sono passato a masterizzare e quindi a orchestrare le avventure per gli altri. Siccome lavoro, famiglia e quant'altro non permette di giocare quanto si giocava una volta, tutte queste storie che ballavano nella testa premevano per uscire, e oltre a essere ingegnere, oltre a essere un giocatore, oltre a essere un padre e marito, sono anche uno scribacchino, mi definisco io. Quindi ho queste storie, ne ho fatte di vari tipi, modo e maniera, horror, fantascienza, fantasy, gialli di vari tipi. Però, oltre questo, questa era la valvola di sfogo per tutte queste storie che in realtà non riuscivo a masterizzare, perché è quello. Quindi praticamente, cioè, tu utilizzi il fatto di scrivere come base di quelle che potrebbero essere anche le successive avventure? Assolutamente sì. Ti faccio un esempio, Simo. Quando il primo e per il momento unico romanzo che ho scritto non è nient'altro che una espansione di un'avventura fatta a Cyberpunk 2020. Per esempio, il tecnomedico che c'è all'interno del romanzo è ispirato al personaggio di mio fratello, che faceva il bisturi, e in quell'avventura succedeva di tutto, e nel romanzo al netrunner, al hacker, succede di tutto. Vabbè, diciamolo, citiamolo questo romanzo, così magari nelle note dell'episodio, quando uscirà in podcast la puntata, poi magari metteremo anche un link. Sì. Allora, il romanzo intitola Pace liquida e Byte, è un nome stranissimo, però la pace liquida è un tipo di droga, e i Byte, perché giustamente il protagonista principale è un netrunner, un hacker. Bene, dopo, allora, quando poi uscirà ovviamente il podcast domattina o questa notte, uscirà ovviamente in versione podcast scaricabile su tutti gli aggregatori di podcast, ci sarà nel note dell'episodio anche il link per arrivare ovviamente al libro. E, sì. Allora, ragazzi, io inizio da Marco. Se c'è un ebook lo prendo subito. Ecco, subito, lui c'è subito l'acquirente, quindi... bene, fortuna che vuole che c'è anche l'ebook, quindi... Ah, guarda un po', che... beh, certo, voglio dire, non sarebbe da te, no, per andare solo sul cartaceo. Comunque, Marco, io parto da te, ma poi a rotazione voglio, certo, voglio sentire anche il parere degli altri, perché noi qui oggi parliamo di giochi di ruolo e di interpretazione, ma non soltanto di giochi di ruolo, anche di interpretazione in senso generale, in senso ludico. Però proprio perché da te partiamo col discorso dei giochi di ruolo più tradizionali, facciamo questa distinzione, cioè cerchiamo di capire se il videogioco di ruolo secondo te ha delle oggettive limitazioni rispetto al gioco di ruolo carta e penna, per quanto possa essere super articolato e super insomma strutturato dal punto di vista delle regole, se ha comunque delle limitazioni. Vabbè, la cosa più banale, uno potrebbe dire, con il pen and paper, con il gioco di ruolo classico, ci si vede già la socialità è diversa, no? Però in realtà non è neanche più così, che oramai su internet ci sono tanti strumenti, Discord è un esempio, ma anche vari canali Twitch e non solo, che ti permettono di avere un'interazione che sicuramente non è fisica, non vedi la persona davanti, però ti permette di avere tantissime interazioni e anche di avere degli engagement molto, molto importanti. Dico, sicuramente la cosa che a me piace tantissimo e ci sta mancando a me e ai miei giocatori quando giochiamo è la possibilità di stare nella stessa stanza e condividere i suoni, i miei gesti, i loro gesti, perché ovviamente se ho un giocatore che è un solitario, si comporterà come un solitario, quindi quando parlerà con gli altri avrà determinati tipi di atteggiamento, quindi si riesce ad essere molto più presi dal character, dal personaggio pur, e quindi diciamo sicuramente c'è questo che è in più e per il momento mi fa prediligere giustamente il gioco di ruolo classico. Vabbè, anche perché vieni da là poi, comunque, fondamentalmente. Assolutamente sì. Ok. Sì. Ok, posso fare una domanda a Marco? Vai, visto che parlavamo di... No, mi hai ricordato una cosa. Ti è capitato di leggere La stanza profonda di Vanni Santoni? No. Vabbè, poi magari ti giro il link. È un libro molto bello sui giochi di ruolo. No, perché mentre parlavi mi ricordavi una frase molto bella che dice lui in quel libro. Che parla di se stesso, faceva il master in un gruppo molto affiatato, e dice: il mio problema è stato trovare un gruppo perché scrivevo storie, inventavo mondi, ma da solo non ci potevo andare. Esattamente. A me, io lo sai come ho risolto? In parte mettendole su carta. Però la mia cosa buona è che ho uno zuccolo duro di amici che hanno le mie stesse passioni. E io adesso ho 41 anni, martedì ho giocato a Stormbringer su Roll20 e il giorno dopo, mercoledì, abbiamo giocato a D&D, quindi fondamentalmente rispetto alla persona che mi ha citato, all'autore che mi ha citato, io sono fortunato perché riesco a giocare e quei mondi non restano dentro la testa. Alcune storie rimangono. E sei fortunato perché alcuni invece, per fare questo, insomma, usano le droghe. No, vabbè, comunque, sì, esatto. Al di là delle battute, esatto. Leonardo, eccoci. Secondo te c'è questa profonda differenza e questo limite oggettivo nei confronti del videogioco rispetto al giocare di ruolo? Allora, io ho giocato entrambi, sono partito da videogiocatore, poi per una vita ho sempre snobbato il cartaceo, finché poi convinto da un amico che tra l'altro ci sta ascoltando, Durmin, ciao Durmin, convinto a giocare a D&D, me ne sono innamorato, poi abbiamo giocato a Vampire anche, che ho preferito tra l'altro, per vari motivi, magari dopo ci arriviamo. E la differenza è sostanziale, e avendo giocato sul mio canale nell'interezza, poi tra l'altro completamente, vari giochi che sono sostanzialmente delle trasposizioni letterali del gioco cartaceo, mi rendo conto di quanto non si possano sposare certe meccaniche tra il videogioco e il gioco cartaceo, e quanto si senta la mancanza del DM. E io penso che magari tra 10-15 anni, quando le intelligenze artificiali saranno arrivate a un certo punto, avremo magari un DM intelligente nel videogioco che riesca a riempire quella mancanza, però per il momento c'è qualcosa che manca di veramente grosso, che è proprio una persona che ti bilancia i combattimenti on the fly mentre li fai, e comunque proprio la senti questa mancanza, che è, secondo me, è veramente grande. Cioè, tu dici comunque l'intelligenza, tra virgolette, l'intelligenza artificiale utilizza quelle che sono le regole, quello è così e deve essere, no? Esatto. Nel senso, non c'è poi una valutazione da quel punto di vista. Manca qualcuno che ti aggiusta il fight, capito? Quel fight troppo semplice te lo rende un po' difficile perché magari arrivano due nemici in più, o magari quel fight troppo difficile ti fa andare giù un nemico più velocemente per permetterti di mandare avanti il flow del combattimento. Il DM bravo ti riesce a rendere tutto quanto piacevole, mentre il gioco purtroppo avrà delle fasi noiose o delle fasi troppo difficili, inevitabilmente. Valerio? La domanda è sempre la stessa, cioè, nel senso, comunque, se tu vedi, e qual è secondo te ovviamente la profonda differenza, le limitazioni, se ci sono, nell'ambito del videogioco, insomma. Allora, precisiamo che io sono qui in veste di youtuber, ma in realtà iniziai a giocare di ruolo cartaceo nel 92 alla tenera età di 6 anni. Ok, quindi ti avvicini più all'esperienza di Marco. Quindi, nel senso, ne ho viste parecchie. Non sono un giocatore esperto e non sono mai stato master, soprattutto, questo da precisare. Ma ne ho giocati tanti e ho giocato tanto. Passando dai giochi classici alla D&D, alla Vampire, alla Cyberpunk, bla bla bla bla bla, fino ad arrivare, insomma, negli anni 2006-2007, la rivoluzione forgita, tutta l'onda new wave e indie del role playing che ha totalmente cambiato quello che era il panorama, che molti pochi in Italia tuttora conoscono come giochi, ce ne sono tanti, ma questo è un altro discorso che adesso non serve. E la differenza che si ha, secondo me, nel mondo videoludico, sì, come hanno detto anche qui gli altri ospiti, è un discorso di limitazione, chiamiamola strutturale, di quello che è il mondo videoludico, perché ora siamo su binari piuttosto stretti, anche per quante possono essere le diramazioni. È uscita proprio l'altro giorno la diramazione di tutte le possibili scelte di Cyberpunk 2077, ed erano relativamente poche se si va a vedere lo schemino, poi magari lo recupererò per far vedere anche magari al podcast poi, che è molto interessante. E quello che si ha in un gioco al tavolo, ovviamente, è, chiamiamola, infinite possibilità, che poi non è vero, nel senso, nei giochi alla, cito i più famosi, D&D, Vampire, bla bla bla, non si hanno mai davvero infinite possibilità, hai le possibilità che il master decide di darti. Poi in altri giochi più narrativi, più collaborativi, si hanno realmente infinite possibilità. Comunque, per me la vera grossa differenza è quella, poi da là nasce tutto il resto e ce ne sono a cascata tante di differenze. C'è in chat Vincent Valentine, giustamente, tanto perché parliamo di giochi di ruolo, che dice che su Neverwinter Night prevedeva la figura del Dungeon Master. Sì, sì, c'era. Esisteva l'opzione online con mondi permanenti. Io, tra l'altro, ero un builder in Neverwinter Nights 1, quindi io costruivo mondi, parti di mondi permanenti, ma era una cosa però nel multiplayer, che era una cosa un po' diversa, ecco. Ma un po' quello di Divinity, tipo, no? Sì. Molto sì, simile. Che sì, hanno sì, proposto anche là. Poi Divinity ha messo la co-op. No, se per questo pure in Ultima Online, negli shard gestiti privatamente, i game master facevano da master, cioè erano loro che ti creavano le quest. Fantastico. Intervenire. Era così anche Matrix Online, dove sì, finirono poi la storia di Matrix, in cui sì, non diciamo chi muore, andatevelo a vedere, perché se avete sì, visto solo la trilogia, il gioco, poi il videogioco online molto, finisce quello che ha cominciato la trilogia. Io ho visto solo la biologia, a dir vero, quindi figurate. No, io ho visto 22 volte al cinema il primo film, relativamente poche le altre due. Io forse 40. No? Vabbè, rimaniamo in focus. Rimaniamo in focus, Puccio. Non al cinema, ma veramente troppe volte. No. Comunque, sì, per i fan di Matrix, ve lo consiglio almeno trovare qualche video su YouTube che racconta la storia del MMO di Matrix, perché finisce la storia canonica che c'è nella trilogia. Allora, rimaniamo in... Sta per diventare un poker d'assi perché esce il quarto. Esatto. Puccio, ti prego, tu che sei tu che sei un runtimeano, insomma, mantieni la trasmissione in focus. Non te ne andava per conto tuo, insomma. E tu invece che cosa pensi proprio rispetto a questo primo punto che abbiamo affrontato, rispetto a questi due mondi che poi, insomma, uno simula l'altro, ma poi in realtà sono abbastanza diversi. No, io più che uno all'altro, siamo in quella condizione in cui uno è figlio dell'altro. Cioè, se ci pensi, i primi giochi di ruolo per computer tipo Akalabeth di Garriott vengono fuori dall'esperienza di master che sapevano programmare. Ovviamente le limitazioni tecniche del tempo, e che in forma minore ma diversa ci abbiamo tutt'oggi, diciamo che sono due mondi che si toccano ma non si compenetrano, nel senso che alla fine, per bella che possa essere la storia che ti può raccontare un videogioco, alla fine non c'hai un master dietro che la adatta al tuo personaggio o al tuo party di personaggio, perlomeno nella modalità single player. Ma visto che lo stavamo citando prima, forse era molto più simile al gioco di ruolo cartaceo e al gioco di ruolo interpretativo Ultima Online, perlomeno negli shard non ufficiali, che è Skyrim o Neverwinter Night, anche nella sua versione multiplayer. Beh, c'erano anche i giochi di ruolo, quelli testuali online, i mod, esatto, domain, sì. Certo. Cioè, comunque poi alla fine di sperimentazioni, una volta entrai in uno sull'ambientazione Shannara, quindi figurati, insomma. Ma vabbè, comunque lasciamo perdere questo. E entriamo invece sul discorso proprio dell'interpretazione, tornando un attimo a Marco, no? Che poi la domanda che mi faccio io è che comunque, se c'è una similitudine tra gli appassionati di giochi di ruolo videoludico e gioco di ruolo tradizionale, che spesso e volentieri, poi tra l'altro, come abbiamo visto anche con Leonardo e con Valerio, insomma, coincidono, c'è questa cosa dell'amore per l'interpretazione. Ma interpretare un personaggio all'interno di un gioco, cioè, serve per renderlo più appassionante, o serve proprio per esulare un po' da quella che è la nostra realtà? Perché noi conosciamo anche persone che dicono che il personaggio che interpretano alla fine è la realtà, e la vita di tutti i giorni è la maschera, insomma, è un po' una cosa inquietante, tutto sommato. Marco. Allora, un po' uno, nessuno, 100.000. L'interpretazione, secondo me, non è il cercare di esulare, no, semplicemente... sì, faccio l'esempio di Cyberpunk, perché è quello che anche ultimamente Cyberpunk sente... cartaceo sempre, eh? Sì, okay. Cyberpunk 2020, specifichiamolo, perché col fatto che è uscito il 2077 adesso esatto. Ma fra parentesi, più o meno in contemporanea è uscito anche Cyberpunk Red, che ovviamente definiamola un'altra edizione invece che 2020 e 2045, a metà strada tra il 2020 e il 2077. Vabbè, sì, anche perché il 2020 oramai, no, è come spazio 1999, quando, esatto. Quando superi la data oramai non vale più, insomma. Esatto, no, dicevo, giustamente, se un personaggio, se una persona, che un giocatore vuole utilizzare un nomade, deve capire che quel personaggio ha delle caratteristiche particolari, che sono peculiari di quel personaggio, e quando lo gioca, e stiamo intorno a un tavolo o su Roll20, è normale che faccia determinate azioni, si interagisca con gli altri giocatori in determinati modi, perché è il personaggio ha quella peculiarità. Quindi l'interpretazione poi del giocatore sta nell'essere più o meno acido, più o meno preso nella parte. E dico, il giocatore ha la parte più facile, tra virgolette, mentre un master ha una parte un pochino più complessa, perché tutti i personaggi non giocanti che ci sono nell'avventura sono appannaggio del master. Quindi devo dire la sincerità, è più isterica come figura la mia che quella dei giocatori, nel senso i giocatori sanno qual è la loro parte. Io magari nell'arco di un quarto d'ora interpreto un anchorman di una piccola emittente all news, poi subito dopo un tecnico delle luci e il managing director della stessa, che è una specie di magnaccia mezzo mafioso. Ecco, nel mio caso l'interpretazione è tutto, sia dal punto di vista delle voci, ma anche del modo come mi interfaccio con loro. Se non ci fosse, sarebbe molto molto molto basic, e loro non si divertirebbero e sarebbe completamente flat, e io anche, perché se non porto i giocatori a un determinato livello nell'avventura, loro non si divertono, io non mi diverto, diventa tutto noioso. È fondamentale l'interpretazione, assolutamente. Bene, Marble Madness invece in chat dice a Valerio: beato te che c'hai gli amici con cui giocare. Poi questo però mi sa che vale pure per Marco e per Leonardo, perché mi sa che tutti quanti sì. Continuate ad averci la vostra combriccola. Quindi Valerio, invece tu questa questione dell'interpretazione come la vedi? L'interpretazione come la vedo? Allora, in senso più ampio e generico, io penso che l'interpretazione sia bella farla, nel senso di essere colui che interpreta, ma la cosa che davvero fa la differenza è quando si è al tavolo e tutti interpretano, perché in quel momento, visto che il gioco di ruolo in realtà non è nient'altro che avere una visione d'insieme di un mondo immaginario condiviso, più la gente è disposta e lì è letteralmente a mettersi in gioco, perché interpretare non è affatto scontato, non è affatto semplice, le persone più timide soprattutto, adesso ho l'esempio della mia compagna che lei è molto timida, l'ho sdoganata da poco al gioco di ruolo al tavolo, e è difficile per una persona che a seconda del carattere, ma quando si fa quel passino in più e si interpreta, ci si cala nei panni, si entra in quello che per me è a tutti gli effetti una sorta di film. Cioè tu non stai più semplicemente chiacchierando al tavolo con i tuoi amici, mangiandoti i popcorn e bevendoti la birretta, ma in contemporanea, in parallelo, ti stai vedendo il film della vita, perché è il film che stai girando tu. Quindi la regia viene data, per carità, dal master, ma magari anche aiutato dai giocatori, e si crea una cosa unica che per me è ancora più immersiva di quello che sono i LARP, cioè live action role play, quelli che ti metti tutto in armatura e vai nel parchino a fare interpretazione, no? Addirittura abbigliato, teatrale quasi. Ah beh, lì infatti si entra in quel misto tra gioco di ruolo e teatro proprio, quindi. Esatto, che comunque per carità, cioè è bellissimo, ho fatto anche quello, io sono tutto armatura borchiata, scudo torre, mi si vede, sembro quasi ridicolo, perché andavo anche nella metro a Roma per andare dietro Ostia a giocare LARP, ma a parte questo, c'è anche io personalmente, poi l'approccio che spesso do al mio canale YouTube, adesso per parlare un minimo nel personale, di quello che più si vede, è che nei giochi di ruolo, perché faccio anche altro, non sono un canale così specifico, ma quando faccio gioco di ruolo mi piace interpretare, e lì sono io che interpreto il protagonista in versioni più o meno aderenti a quella che è la mia personalità, ma a volte differisco, come sto facendo adesso in Cyberpunk, dove sono un corpo abbastanza infame. E questo però coinvolge sì gli spettatori, ma vi dico in prima persona, è bellissimo. Cioè, da quando ho il canale YouTube e interpreto quando gioco al computer, e interpreto realmente, non soltanto cliccando la scelta 1, 2 o 3, vivo il gioco al computer, proprio il videogioco lo vivo al 120-130% di come lo vivevo prima. È davvero un'esperienza diversa, e tra l'altro nel piccolo lo consiglio a tutti, magari senza parlare al microfono, ma comunque facendosi la tua storiella mentale del perché realmente stai facendo qualcosa. Quindi comunque per te non è un'evasione, è solo un coinvolgimento. Sì, no, l'evasione lasciamola alle droghe, no, a parte gli scherzi. L'evasione non la cerco, cioè può essere una valvola di sfogo, se vogliamo, ma è un concetto diverso dall'evadere. Evadere, secondo me, non è mai realmente qualcosa che vada ricercato, non è mai una soluzione, secondo me. Cioè, pospone un problema, che siamo tutti d'accordo, ma il problema rimane lì. Quindi per me è una grandissima valvola di sfogo. Però ecco, sull'evasione non l'ho mai voluto coscientemente accostare. Poi, per carità, sarà successo che abbia fatto anche quel ruolo, ma non è qualcosa che ricerco in quel senso. Certo. Buonasera, un abbraccio al caro Valerio da Roberto. Quindi vedi che... Grande Roberto. Leonardo. Allora, partendo dal presupposto che è capace che io e Valerio magari ci siamo incontrati in passato senza saperlo. Mi siete dati anche le mazzate, capace. Viene da Ostia, anni e anni fa. Castelfusano, anche certo. Esatto, viene da Castelfusano. Poi io sono di Ostia, in realtà, di base, per cui nato a Ostia, vissuto lì per un sacco di anni. Io mi volevo ricollegare al fatto di fuggire dalla realtà, piuttosto che fuggire dalla realtà, è un cercare di fare quello che effettivamente non possiamo fare nel mondo reale, no? Non trovate, nel tipo senso lanciare che, palle di fuoco, tu dici, non lo possiamo non posso fare. Scendere per strada a tirare palle di fuoco alla gente, insomma, dentro al centro commerciale, quindi cerchi di vivere dei mondi fantastici al meglio e tirando fuori il più possibile da questi mondi fantastici, e ce ne sono tanti, ne avete citati molti. Io avevo parlato di Vampire, c'è il classico Dungeons and Dragons, Cyberpunk, e tutti hanno comunque una componente che ci attira verso di loro, che secondo me è data principalmente dal setting, che chiaramente è al di fuori del mondo reale, ha delle aggiunte che ci sfuggono e che non potremo mai avere. Magari Cyberpunk tra qualche 50 anni, forse, però insomma i vampiri o le magie penso che non ci arriveremo mai. Purtroppo non ci arriveremo mai, però sai che adesso è divertente pensare al fatto che vai al centro commerciale e casti palle di fuoco. Mi ricordo la famosa storia dell'Or British su Ultima Online, quando ci fu quella famosa protesta che tutti andavano sotto il castello dell'Or British e sti server crashavano, allora lui è uscito e ha castato palle di fuoco a tutti per ammazzare. È stato fantastico, cioè, non so se hai visto un pezzo di storia. Hanno devastato i server quando li lanciarono, perché avevano fatto tutta quella faccenda di un sistema con i mostri che spawnano in automatico, eccetera eccetera, allora ne spawnano di più qui, di meno di qua, e alla fine i player hanno macinato talmente tutto che non era rimasto neanche un sorcio praticamente sul server nelle prime due ore dal lancio. Se per questo una volta è anche morto per un bug Lord British. Grande, sì. Lord British. Che tipo. Se vi interessa, c'è un ragazzo italiano che sta scrivendo la storia di Ultima, non solo la trama dei giochi, ma come è stato sviluppato, intervistando Garriott spesso e altri che hanno fatto parte dei team di programmazione, e sta pubblicando. È partito con un crowdfunding, è andato bene, si chiama The Red Gate, poi magari lo linkiamo. Sono molto interessanti, se vi piace. Sì, ricordatelo magari, perché io, sai, già me lo sono dimenticato, quindi... E invece Puccio, proprio tu, quindi interpretazione come immedesimazione, cioè nel senso anche per dare spessore alla cosa, oppure come illusione, evasione da... Io la trovo un po'... Allora, ne parlavo qualche tempo fa con un amico, secondo me è una scelta adulta, nel senso che oggi è molto facile... Specialmente noi comunque abbiamo visto un altro periodo del videogioco, tutti quanti, perché comunque partiamo dai 30 in su, e quindi era il periodo in cui non c'era sostanzialmente internet per risolvere i problemi, oggi la maggior parte dei player comunque, ma tutti, facciamo fatica anche noi comunque, ti viene da andare su YouTube a cercare la build più bella, il personaggio più figo, la pistola che fa 10.000 danni, eccetera, eccetera, e quello ti porta lontano dall'interpretare qualcosa. Ma infatti io vado proprio a cazzo di che, cioè non guardo. Esatto, anch'io cerco di fare quello, e quello secondo me è parte dell'interpretazione, cioè il giocare il personaggio, il gioco come viene, almeno per la prima run, e cercare chiaramente di mantenere una linea decente, quello che cerco di fare sempre io negli RPG. Se decido chiaramente di fare una run cattiva, faccio il cattivo, non è che cambio. Certo. Cerco di seguire gli interessi del mio personaggio. Sì, sì, ma a questo, me è questo una poi ci arriviamo. Adulta di questo, giocare l'RPG. A questa cosa poi ci arriviamo dopo, cioè nel senso, perché poi c'è infatti una domanda specifica a questo tipo di discorso. Puccio, invece tu? Di nuovo to talk. Scusate. Aspetta, che cerco. Intanto che tu parli, provo a vedere se ti posso risolvere la questione. Vai, vai tu, intanto. Dite, aspettate, va, così ci riprovo. Aspetta. Io ti sento comunque. Ok, continua ad averlo. Eh no, perché ogni tanto mi fai il dip di... Dammi un attimo, insomma. Non è che so velocissimo io qua. No, hai ragione. L'ho appena imparato. Questo, mentre discutevamo, stavo pensando ai vari LARP che io in realtà non ho mai potuto giocare perché nella mia zona non erano particolarmente sviluppati, tranne una compagnia di ragazzi di Bari che giocava a Masquerade. Ma tu sei a Putignano, su, dai. Ah, io stavo già a Bari. A Bari, ok, vabbè. Mi ero già spostato per motivi di studio prima e di lavoro dopo. Cioè io ho sempre avuto un rapporto abbastanza combattuto con quel tipo di gioco, mi ha sempre attirato tanto, ma veramente non ci ho mai avuto l'occasione. Poi in realtà ho scoperto che in realtà si è sviluppato quando io ormai me ne ero disinteressato. Comunque, visto che prima l'abbiamo citato Garriott, mi sa che ritornerà spesso nella discussione, però immaginatevi, parlando di rappresentazione, parlando di interpretazione, lui ci ha creduto talmente tanto che è riuscito a diventare il personaggio che aveva scritto per se stesso, che poi alla fine ora vive in un castello, c'ha, per quanto fittizio, per carità di Dio, c'ha le armature in casa ed è letteralmente il sovrano del suo mondo digitale. C'ha anche le trappole, se è per questo. Quindi. Come? C'ha anche le trappole, i passaggi segreti. C'ha anche le trappole, i passaggi segreti. È stato nello spazio. Che cosa volete di più? Ma ne abbiamo parlato in archeologia videoludica una volta, questa cosa, sì, vabbè, personaggione... Però vabbè, io voglio sapere la tua opinione su interpretazione in quanto immedesimazione o elusione, evasione del... No, ma ripeto, così andiamo avanti. Non l'ho potuta vivere come cosa perché nella mia zona non era così diffusa. Io riguardo, diciamo così... Sì, ma anche nei videogiochi, quando tu videogiochi, cioè tu come... Sì, no, ci stavo arrivando. Okay, sì. Francamente io il concetto di videogioco come forma di escapologia, come evasione, francamente l'ho sempre trovato una cosa positiva, perché poi alla fine è uno staccare la spina, è andare in un altro posto quando non ci puoi andare fisicamente. Videoludicamente parlando, all'interno dei giochi per computer, tolti quelli multiplayer, puoi interpretare fino a un certo punto. Ci sono server di World of Warcraft che sono GDR only, che sono degli esperimenti carini da vivere, ma che secondo me si adattano poco a come è concepito il gioco. Ci sono altre forme di intrattenimento di questo tipo, però secondo me l'interpretazione all'interno dei giochi per computer rimane limitata rispetto a quella che puoi vivere con carta e penna. Bene, Vargheon in chat dice a penis segugis pizzi anno domini 2020. Grazie, mi piace sempre sapere che avrò qualcosa da scrivere sulla mia tomba. E invece Gabriele dice: grande Marco, un grande narratore, ho avuto modo di sperimentarlo proprio su Cyberpunk quando faceva il master, insomma. Quindi c'hai anche Marco, c'hai anche i tuoi estimatori, e vengo da te e, hai un po' risposto, diciamo, a questa terza domanda che ti riguarda, però comunque io te la ripongo, cioè nel senso, oggi comunque il lavoro, le distanze, comunque il fatto che magari ci trasferiamo, il fatto che oggi c'è questa anche complicazione della pandemia, quindi tutto quello che sono le complicazioni a livello di riunirsi, raggrupparsi, ovviamente ci impongono il fatto di giocare molto più frequentemente, molto più facilmente online, anche insomma per quanto riguarda il gioco di ruolo cartaceo, non solo il gioco di ruolo videoludico, con gli strumenti adeguati. Quindi se intanto parliamo anche di strumenti, cioè magari quali possono essere quelli che ci suggerisci e cosa inevitabilmente cambia nell'esperienza questo, tutta questa situazione. Allora, saluto Gabriele, ovviamente, che è così affascinato da Cyberpunk Red che ogni fine sessione mi manda le miniature che crea su Heroforge, i vari personaggi che incontro. Vabbè, piccola parentesi. Allora, devo dire la sincera verità, io ho iniziato a giocare online non da tantissimo, nel senso è un anno abbondante, e in quest'anno io e gli altri ragazzi abbiamo sperimentato qualsiasi tipo di strumento possibile e immaginabile, e alla fine siamo approdati a uno strumento che è veramente potente, Roll20. Però per dire, si può giocare in qualsiasi modo, l'importante è che chi ha la testa e quindi il master abbia preparato in modo dovizioso tutti i vari strumenti per fare un'avventura qui, è una sessione molto molto immersiva, quindi mappe, gli incontri, i suoni, quindi fondamentalmente rispetto al passato c'è molto meno, molta meno fisicità. Però per esempio adesso noi siamo arrivati a un buon livello di gioco online, e fra parentesi, con Roll20 stiamo praticamente esplodendo, perché è incredibile. Si lanciano i dadi in 3D, si hanno le macro in automatico, quindi non bisogna stare come su Discord a fare le varie cheat, punto esclamativo, dato da 20 più 4, non c'è, no, è tutto molto più veloce, molto più fruibile. I ragazzi hanno dei token che possono spostare sulla mappa, sulla battle map, è molto molto molto interessante. E Roll20 mi sta facendo ricredere sulla stanchezza che avevo di giocare online. Ovviamente non è come stare tutti quanti nella stessa stanza, però ci si avvicina quasi. Beh sì, certo, e comunque se ti dà maggiore anche coinvolgimento ti riporta un po' di entusiasmo da questo punto di vista. E invece Leonardo, tu che poi tra l'altro lo sai che nel tuo canale c'hai pure delle belle sessioni di gioco. Ma è sgamato, eh? Beh, io vi ho esplorato sia a te che a Valerio, insomma. Quindi. Non abbiamo messo quella di Vampire, purtroppo, quella l'abbiamo fatta tra virgolette a porte chiuse, in cui ero io il DM. È stato dal punto di vista dell'operazione del fare il DM un incubo, perché è veramente un lavorone. Però è stato piacevole. E io mi riallaccio al discorso di Marco, che ha tirato fuori una cosa molto particolare, perché è quella del combattimento, che è molto velocizzato con questi strumenti qua. Io cito tra l'altro Fantasy Grounds, che secondo me, diciamo, è l'apice di questi programmi e strumenti che sono utilizzabili. Costa di più rispetto a Zero di Roll20 o altri, ma mi pare costa una sessantina d'euro o 30 o 60, però come qualità è molto superiore, quindi chiaro, se uno gioca molto conviene fare l'investimento. Però la velocità è una cosa che secondo me D&D per certi versi lo rovina. Non mi ammazzate questo commento, però giocando ho notato che i fight durano a volte troppo, diventano noiosi. mentre Vampire ce l'ha più veloci e sono più digeribili. Parzialmente questo problema è risolto da questi programmi che levano la parte del calcolo e quindi velocizzano un po' la parte tediosa della ho fatto il 2 di 4 più 8 devo, c'ho il bonus, diventa lunga. E Fantasy Grounds secondo me è perfetto per questo. Sperimenterò. Bene, vedi che poi alla fine serve questo, no? Cioè, creare interazione, provare cose. E Valerio? Allora, io pure negli ultimi tempi ho dovuto, causa pandemia, giocare un po' più spesso. Ho iniziato anch'io sul mio canale in forma così embrionale a postare qualcosa di roleplay fatto tramite Discord, anche se ci ho messo tutta una grafichina. L'importante, vediamo se c'è sto magari su Discord sul telefonino. No, a posto. Allora, dicevo, la fortuna è che facendo giochi più semplici che richiedono pochi dati, anche rimanendo nel semplice senza utilizzare app, software e cose troppo complicate, con un semplice tiradadi mi trovo molto bene. La cosa che più mi manca, perché comunque con le webcam ci si vede in faccia, ovvio la tecnologia è sempre un limite, per esempio la maggior parte delle persone non ha un microfono da dire come me che ho i pannelli fonoassorbenti e il microfono da 300 euro, quindi ovviamente ci sono delle situazioni in cui l'audio cracchia e c'è il problema e c'è il ragazzino dietro che corre, quindi un po' spezza. Però quello che più mi manca è la fisicità, nel senso io tendevo anche al tavolo, che ne so, a mimare, alzarmi dal tavolo, scattare alla porta, cioè quelle cose che proprio che adesso ovviamente mi mancano come elemento fisico. Per il resto mi trovo molto bene, mi medesimo molto, mi manca l'elemento puramente sociale, le chiacchiere pre e post, cioè, tutto quell'elemento che in realtà però è esterno al gioco di ruolo. Come gioco di ruolo fine a se stesso, alla fine secondo me è un buon medium, passa abbastanza bene la giocata. Beh, poi devo dire la verità che si segue, allora è difficile riuscire a seguire le giocate di ruolo online su YouTube, su Twitch o anche in podcast, alcuni lo fanno, è difficile seguirli quando non tutti hanno la stessa qualità dell'audio ed è chiaramente è una cosa abbastanza complicata che ci sia una sì, standardizzazione per tutti, però devo dire che alla fine a volte è anche abbastanza avvincente. È intervenuto in chat Amor CFI World 31, non so chi sia, a me mi fa piacere, comunque benvenuto. Buonasera a tutti, sia lodato Roll 20. Grazie alla piattaforma ci stressiamo di meno quando giochiamo online, immagino che sia così, perché io mi ricordo che Puccio ce lo fece installare a tutti perché ha detto mo famo, poi non l'abbiamo più fatto, Puccio. Io vi ho passato il link del Jumpstart Kick di Cyberpunk Red, ho detto organizziamoci, facciamo Roll 20. Vabbè, ok, in effetti poi non ci siamo più organizzati. Io in realtà l'ho provato Roll 20, abbiamo fatto un paio di sessioni proprio con il Jumpstart Kick di Cyberpunk Red con degli amici in zona. Effettivamente concordo con quello che avete detto, leva parecchia roba macchinosa o rompiscatole dalle sessioni di gioco, tutta la parte di lancio dei dadi, tutta la parte di calcolo dei bonus, dei malus, in effetti scorre molto più rapidamente. Sarei curioso di provarlo con altri sistemi di gioco, tipo o con il nuovo AD&D con la quinta edizione. Vorrei sapere se esiste una versione giocabile di Gears ancora, per vedere se Roll20 riesce a fare la magia di rendere giocabile. Sarebbe una impresa davvero titanica. Ci vuole un algoritmo di quelli con i controcazzi. Madonna santa. 8 tiri di dado per dare un pugno, ricordo. Perché sì, non lo so, no, Gears è il gioco di ruolo del Signore degli Anelli. E in più gli appassionati per essere sostanzialmente ingiocabile. E in più c'erano i 10 tiri per determinare il danno, oltre gli 8 tiri per colpire. No, che poi questa cosa a me mi ha sempre fatto proprio intimamente male che fosse così massacrante da quel punto di vista. Perché io non voglio dire, sono un tolkieniano, mi piace, ho letto tutto, collezioni libri, ogni volta che i nipoti trovano qualcosa nello scantinato e lo pubblicano, comunque sono il primo che se lo va a prendere. L'idea di giocare in quel mondo mi affascinava tantissimo, ma così no, cioè, figli, è assolutamente la cosa meno allettante per un giocatore. Ci si presentava con lo zaino di dadi quando si giocava insieme praticamente. ne servivano tanti. Le schede erano, cioè, diventavano lunghe tipo l'Hobbit, no? Però il motivo per cui io per esempio ho amato Vampire, perché bastano un tot numero, diciamo 7, 8 di 10 e hai finito con i dadi, i lanci sono molto semplici, i fight almeno da manuale dovrebbero durare non più di 3 turni per mantenere comunque il pacing veloce, e questo secondo me migliora parecchio l'esperienza. Bene, e Roberto in chat dice le mangiate tutti insieme, Valerio, giustamente, perché poi a quel punto, no? Cioè, nel senso, che facevate gli stufati come quelli che se leggono nei libri fantasy, no? Che vanno tutti in giro col pentolone, no? Che mi sono sempre domandato, cioè veramente io la curiosità ce l'ho sempre avuta, no? Tipo quando leggevo proprio Shannar da ragazzino, che dice vabbè, ma che schifo Shannar, la copia del Signore degli Anelli, vabbè, quello che vi pare, però io da ragazzino il primo libro che ho letto fantasy era quello, no? E vedevo che sì, che camminavano, ogni tanto si fermavano, facevano il fuoco e facevano sto stufato, no? Oppure mangiavano i pezzi di birra, oppure mangiavano formaggio e bevevano birra, no? L'acqua non esisteva, non ho mai capito pure. Forse perché magari era contaminata, perché so. Con l'acqua viene la luce, esatto. Vai, vai. Stava parlando Valerio, vai. No, no, dicevo appunto, l'acqua, non so se appunto può esserci qualsiasi cosa, la birra sei sicuro che te la vuoi bere. Okay. Allora, e entriamo invece anche, approfondiamo un attimo anche la questione relativa a Leonardo, e così raccontiamo anche, così poi dopo lo facciamo anche con Valerio. E ovviamente quello che diciamo qui poi vale sempre per tutti, è sempre a rotazione. E intanto Leonardo, ricordiamo, lui c'ha il suo canale YouTube che troverete come link nelle note dell'episodio. Alawin è un canale molto verticale, strettamente legato al gioco di ruolo e al gioco di ruolo che ovviamente impone un certo tipo di interpretazione proprio per sua natura. In Italia penso che ci sia così solo lui e un altro ragazzo che però lo fa in inglese, turn based qualcosa, adesso non ricordo, lo dovrei andare a cercare, insomma. Turn based lovers, sì, lovers, bravo, sì, sì. Che ci forte, seguiamo a vicenda, esatto, infatti io credo che alla fine è stato seguendo uno che ho trovato l'altro e viceversa, insomma. E intanto se vuoi parlare al volo un po' anche del tuo canale, di come è nato, come ti sei approcciato a questa cosa, insomma. Ma il come è nato spesso e volentieri dipende da casi della vita, no? Immagino che valga un po' per tutti quanti, perché io inizialmente ho cominciato facendo Twitch, connessione nuova, facciamo Twitch, proviamo di qua di là, poi chiaramente i turni lavorativi hanno costretto a una situazione differente, perché Twitch, se c'è una cosa che secondo me è necessaria, è la costanza nella schedule che hai giornaliera, e che non riuscivo a mantenere, al che ho detto vabbè, mi butto su YouTube, almeno riesco a registrare quando meglio credo, quando meglio posso, e riesco a comunque a dare un content costante durante la settimana senza nessun problema, e l'ho voluto mantenere così sin dall'inizio con i let's play, perché chiaramente sono una cosa che riesci a gestirti facilmente innanzitutto, e poi perché i giochi mi piace giocarli dall'inizio alla fine, questa è la cosa più importante secondo me, perché vedi comunque molti canali magari fanno due puntate e poi smettono, però io lo vorrei giocare. No, beh, perché la maggior parte degli YouTuber, quelli che ovviamente puntano a far diventare YouTube una professione, chiaramente devono essere molto attenti, no? Non tanto alla visualizzazione, ai tempi di visualizzazione e via dicendo. Diciamo che te, da questo punto di vista, per ora non te ne frega più di tanto e riesci a essere duro e puro da quel punto di vista, insomma. E questo è secondo me la cosa che a me, chiaramente, io ho quasi 50 anni, quindi è chiaro che c'è un approccio diverso rispetto al ragazzino, no? Però non te ci vedo proprio come approccio, fa bella rega, boom, bam, bim, e via dicendo, insomma. Quindi alla fine ci sta, insomma, il modo in cui tu per ora stai affrontando questo divertimento, alla fine, no? Sì, assolutamente, no, hai usato vari aggettivi, io direi proprio crudo, nel senso dritto per dritto, così com'è, il let's play dall'inizio alla fine, e la cosa più importante secondo me è dall'inizio alla fine, che non solo aiuta chi vuole seguire me come personalità, non solo per solo perché sto giocando quel determinato gioco, a vedersi comunque un'opera dall'inizio alla fine, ma anche a personalmente a me a godermela dall'inizio alla fine. Perché interrompere giochi costantemente, sì, magari comunque ti porta il pane a tavola se fai solo YouTube, però ti fa perdere un sacco di opportunità dal punto di vista videoludico, comunque di giochi che magari non finirai mai e li cambi costantemente, non riesci mai a goderti nulla. Certo, ma Marco, ma visto e considerato che sia Valerio che Leonardo hanno la doppia contaminazione, no? Nel senso comunque hanno la doppia esperienza, tu con il videogioco, ma è il videogioco di ruolo, che tipo di approccio c'hai? Allora, io ho iniziato più o meno in contemporanea con i giochi di ruolo pen and paper, i classici fisici, con Baldur's Gate, che è quel mostro sacro, fra virgolette, primissimo, super, iper. L'ho giocato in lungo e largo, sapevo a memoria tutti i vari versi che facevano i personaggi, Imoen o gli altri Xan, quindi ho giocato per un bel po'. Poi mi sono incominciato, poi la noia è incominciata a prevalere e ho ripreso ogni tanto gioco. Adesso per esempio sto giocando a Shadowrun Returns. Ah beh sì, Shadowrun, però... sì, belli belli belli belli tutti. Ho da installare e iniziare Cyberpunk 2077, perché giustamente l'ho preso, e tutti, cioè ho Icewind Dale, la versione Enhanced Edition, quindi sto riprendendo di nuovo, però diciamo preferisco sempre cercare di organizzare quella serata con gli amici e giocare. Marco Amor, quello che hai citato prima, è uno dei ragazzi che anche lui adora giocare di ruolo, e anche lui, quando abbiamo iniziato a utilizzare Roll20, si è innamorato di sto strumento, per dire. Però il videogioco mi piace, però non riesco ancora a staccarmi dall'amore per GDR classico, no, vabbè, ma pen and paper. Non è necessario, no? Nel senso, certo, sì. Una cosa non esclude l'altra, però è chiaramente, se io preferisco, se ho poco tempo, tu magari preferisci dedicarlo a quello piuttosto che magari la scelta che può fare qualcun altro, perché per esempio, e torniamo poi alla seconda presenza importante di questa, anzi alla terza presenza importante, perché siete tre ospiti che chiaramente venite dall'esterno e comunque portate un contributo diverso di quello che di solito abbiamo all'interno del nostro podcast, ossia Valerio, che ha anche lui il suo canale, ovviamente YouTube, Ciriola Let's Play, anche lui fa un percorso secondo me diverso da un certo punto di vista, che però lo rende simile, ed è per questo il motivo per cui mi piace, a quello che fa Leonardo, però lo fa estendendo il discorso a una più ampia gamma di tipologie di gioco. L'unica cosa che non manca è il racconto, cioè nel senso il personaggio visto in prima persona o in terza persona che sia, ma visto sempre dal suo punto di vista, quindi durante il gameplay non c'è il cazzeggio, ma c'è il ragionamento, c'è il racconto, cioè lui sta raccontando il personaggio per come lo vive lui. Ecco Valerio, da che nasce questo spunto che ci hai avuto? Allora, è nato in modo piuttosto naturale, poi magari ho cercato nel tempo di strutturarlo, ma una cosa che accade in molti giochi, e adesso appunto magari allarghiamo ai giochi di ruolo d'azione, ma fino anche agli sparatutto, perché io poi applico più o meno la stessa metodologia ludica un po' a tutti, che spesso e volentieri i personaggi fanno cose che non ci tornano tantissimo, nel senso che noi non l'avremmo fatto, capita molto spesso che ci siano azioni che non ci tornano, e noi come giocatori, soprattutto giocatori di ruolo, avremmo detto: senti, io qui onestamente, tizio, avrei fatto tutt'altro, però sai, il gioco me lo impone, è un gioco su binari, e... però a me non piace, come dire, essere passivo, perché in quel momento sentivo che il mio potere di narratore mi veniva sottratto dal gioco. Al che ho detto: beh, allora aspetta, ma raccontiamola a modo nostro. Cioè sì, il mio personaggio ha fatto questa cosa, ma perché in fondo lui ci vedeva questo? E quindi si crea una narrativa parallela che è facilmente distinguibile allo spettatore. Cioè, ovviamente chiunque, è palese cosa dice il gioco, cosa stai facendo. E io ci ricamo sopra. Poi ovvio, in un vero e proprio gioco di ruolo applico lo stesso identico schema, come in Cyberpunk sto facendo molto, perché le scelte, per esempio... Continuiamo a citare l'ultimo capitolo uscito, perché sarà quello un po' più seguito anche dai non giocatori di ruolo, perché ormai, scusatemi il termine, lo hanno portato su Twitch e YouTube cani e porci, che soltanto per dire persone non addette, anche non amanti del gioco di ruolo come concetto. Quindi in qualsiasi tipologia ci si vada a trovare, spesso comunque, essendo anche giochi di ruolo, si ha una scelta in realtà limitata. Però quando tu ci ricami la tua personale storia, se tu aggiungi alle motivazioni che il gioco ti fornisce, ti crei il tuo personale background e lo evolvi, e qui mi aggancio a quello che diceva Lawin del fatto di essere duro, e se ha fatto la roleplay cattiva è sempre cattivo, io sono un po' più morbido, nel senso che mi piace... creare dei presupposti e modificarli logicamente al proseguire del gioco. Cioè, se esistono degli eventi di impatto talmente grandi che modificherebbero il comportamento del mio personaggio, agirò di conseguenza. Quindi un personaggio particolarmente stronzo magari si ammorbidisce se gli eventi in gioco fanno sì che magari lui possa dire forse il mio atteggiamento è stato sbagliato, e viceversa, magari, capito, uno diventa più cattivo perché è stato tradito, eccetera eccetera eccetera. E mi diverto così, e spero che gli spettatori si divertano con me. Beh, io però questa è la domanda che faccio a tutti quanti, perché può valere in tutti gli ambiti, dal gioco di ruolo cartaceo, diciamo così, possiamo prendere un attimo un po' come esempio. Non so se esiste, ma se è un caso limite, però dovesse esistere, immaginiamo che esista la situazione. In un qualsiasi gioco nel quale noi vogliamo inserire un'interpretazione, dove c'è un personaggio che è preordinato, predefinito, no? Cioè il personaggio è quello, ok? Come può essere nel caso di Valerio, Joel in The Last of Us 1, come può essere Shepard in Mass Effect, o come, per quanto riguarda Marco, non lo so, se dovesse esistere un gioco di ruolo che comunque presuppone che ci siano dei personaggi o un personaggio predefinito dal quale scegliere, no? Però se non esiste, Marco, prova a immaginarti, no? E alla fine un personaggio può e ha già una sua caratura, una sua connotazione. Può avere, come ha detto Valerio, una sua evoluzione secondo il mio racconto, però poi alla fine ci lascia comunque margine di raccontare la nostra storia, oppure è assolutamente inevitabile che questa cosa castri la nostra possibilità di interpretare un personaggio, quindi interpretare la storia per come la vogliamo noi. Partiamo da Marco, poi Valerio, e poi Leonardo, e poi ovviamente Buccio. Allora, ti dico, l'evoluzione del personaggio secondo me è fondamentale, e non qualsiasi gioco uno stia facendo, che sia un gioco di ruolo, fantasy, fantascientifico, o ucronico nell'antica Roma, come può essere l'ex arcana, fondamentale, perché è come dare, non si dà una vita e anche uno scopo al personaggio, tali che chi scrive e chi orchestra le partite, quindi il master, sa esattamente dove andare a parare, come riuscire a a stimolare il personaggio e il giocatore. Quindi sicuramente il fondamentale, la creazione di questo, definiamolo, background, per dare a questo personaggio degli stimoli che vadano per la semplice avventura, la semplice sessione. Ad esempio in Cyberpunk Red, come anche in Cyberpunk 2020, questo background si crea direttamente nel momento della creazione del personaggio, quando si fa la scheda. Quindi ti dico, secondo me è fondamentale. E Leonardo, scusa. No, perché poi voi scrivete pure sulla chat di Discord, io mi distraggo. Però fate bene, tranquilli, non vi preoccupate. Leonardo. Ma dunque, è difficile da rispondere alla faccenda, che poi in realtà è che qua casca anche l'asino, perché il gioco qui ha la limitazione grossa, perché ovviamente le risposte che puoi dare a un NPC sono quelle, non è che nessuno è mai riuscito, se magari un Fallout New Vegas, i vecchi, il Fallout 3 riuscivano a darti una quantità di opzioni tale da quasi essere un gioco di ruolo vero e proprio, però poi c'è una grossa limitazione da questo punto di vista. Quindi sì, il PG lo fai evolvere, però lo fai evolvere in base a quello che il videogioco t'offre, non di più, specialmente in giochi più su rotaia, tipo appunto Mass Effect o giochi del genere, insomma, che sono molto più on rail rispetto magari a un Fallout o a un Cyberpunk. Ma infatti qua secondo me, Valerio, secondo me può confermare questa cosa, che secondo me un gioco che non è un gioco di ruolo, come il primo The Last of Us in particolare, offre più possibilità di quello che invece è un gioco di ruolo con Shepard tipo Mass Effect. Ad esempio, senza fare spoiler, nel finale di The Last of Us 1, anche se il finale è predefinito, tu puoi comunque scegliere che approccio avere. Quindi puoi aver trasformato in qualche maniera il personaggio. In qualche, cioè, tu puoi uccidere tutti, come puoi, diciamo, essere stealth e cercare di risparmiare più gente possibile, andare al punto, no? Cioè, nel senso, se uno volesse fare il Joel per quello che è, Joel ammazza tutti. Cioè, nel senso, non so se sei d'accordo, Valerio. Ok, Puccio, dillo, rispondite, vai. No, mentre discutevamo mi stavo facendo una domanda: se un gioco di ruolo fosse veramente libero, cercassero di renderlo veramente libero, ma immaginate se all'interno di Mass Effect una mattina vi svegliate e dite, vabbè, voglio che Shepard si ritiri dall'avventura che sta vivendo, diventi un prete e vada a predicare nel deserto. Vabbè, questo però non lo puoi fare neanche nel gioco di ruolo videoludio, lo puoi fare nel gioco di ruolo carta e penna, cartaceo. Lo puoi fare solo lì. Poi alla fine, secondo me, alla fine la limitazione grossa è quella, cioè non puoi vederli meno o vederli tantissimo, ma i binari li trovi comunque, sono lì che ti aspettano. Alla fine puoi, cioè c'hai comunque, no, è tornato Simone. No, scusate. Okay. Vai. No, però ho sentito tutto, perché è durato proprio un secondo. Va bene. È uno strumento alieno ancora, poi piano piano. Sì, dobbiamo imparare, secondo me. Sì, allora, che ci siano delle catene, che ci siano dei vincoli, è inevitabile anche nel gioco più esteso, da questo punto di vista. Io dico proprio nella tua immedesimazione del personaggio. Comunque c'è l'opportunità, no, ce l'hai un... Il problema è che alla fine, perlomeno io nei giochi per computer, il senso di immedesimazione lo provo relativamente, perché alla fine poi ho un set di scelte predefinite, quelle sono. Se ne volessi prendere una diversa non potrei. Alla fine l'approccio che ho io sui giochi di ruolo per computer, con pochissime eccezioni magari, ma prima parlavamo di Baldur's Gate, non riesco a recitarlo il personaggio. Cerco di costruirmi un personaggio che si comporti più o meno come mi comporterei io in quel frangente, o che si comporti nella maniera assolutamente opposta, però lo sento meno mio, non lo so, è una sensazione difficile da spiegare. La sto vivendo in questi giorni con Cyberpunk, perché oggettivamente molte cose che vorrei fare non sono previste, tecnicamente non sono fattibili, non si possono fare. E per quanto mi piaccia la storia, lo stia giocando con piacere, lì non sono io e non riesco a viverlo in quella maniera. Bene, bene, sì, sì. In realtà, guarda, poi io sono un po' un tipo un po' particolare, perché a me piace la narrativa, anche il gioco interpretativo, anche il gioco di ruolo, anzi, prevalentemente mi piace il gioco di ruolo, però a me piacciono anche le storie che hanno dei personaggi preordinati, e da qua si confonde un po' tutto tra quello che è la mia amore per il gioco di ruolo, soprattutto i tattici a turni, a me io pazzisco per quelli, e l'amore per la narrativa più tradizionale, quindi per il cinema, per la letteratura, no? Dove comunque c'è un autore che ti racconta una storia con dei personaggi, e a volte questa cosa un po' collide, però lo lascio fare. Ecco perché, per esempio, vengo a Leonardo. L'Arian si è tanto lamentata sul fatto che nell'Early Access di Baldur's Gate 3 i giocatori hanno creato dei personaggi poco fantasiosi, poco creativi, oppure si sono limitati a quelli che erano predefiniti. Ma io non, onestamente non ci vedo manco niente di male in tutto questo. No, e sono pure d'accordo con te. Ti dirò di più, sono due cose chiaramente diametralmente opposte, però hanno entrambe il loro interesse, la loro importanza, perché comunque giocarti lo Shepard può essere tanto bello quanto giocarti, appunto, che ne so, un avio o un altro personaggio scritto dall'inizio e che comunque puoi impersonificare, ma fino a un certo punto, quanto il fatto di creare il personaggio tuo, dipende. Secondo me valgono la pena entrambe le cose, e vale la pena giocarsi più volte il gioco se dà l'opportunità di fare entrambe le cose. Cioè, io ho fatto un personaggio mio e sono tutti belli i personaggi di Baldur's Gate, secondo me. Purtroppo non ne ho conosciuto uno perché l'abbiamo trucidato è successo durante l'attacco alla prima cittadina dove siamo stati, e... per caso un mago attento. Eh già, proprio lui. Gli altri li abbiamo conosciuti tutti, sono tutti fighissimi secondo me. Però anche creare un tuo PG dove il gioco ti dà gli strumenti per farlo, ovviamente, quindi un personaggio doppiato come gli altri, con scelte come gli altri, con una storia secondaria bella tanto quanto gli altri, in quel caso lì vale la pena di giocarli entrambi, secondo me. Purtroppo mi sa che Leonardo, che Valerio non ce la fa a rientrare, perché dice che gli ha riavviato, ma praticamente Discord gli si crasha praticamente. Speriamo che ci riesca. Se non ci riesce, no, se riesce ad aprirlo da web dovrebbe. Ah, neanche. Sì. Non gli funziona neanche da web, dice. Non so per quale ragione. Vabbè, eccolo, io lo vedo online. Attenzione. Eccolo qua. Ok, io stavo cercando ho posto la domanda agli altri. Poi magari forse Marco, non, però vabbè, nel senso, cerco un attimo di fare il punto della questione, perché non manco io mi ricordo dove eravamo arrivati, insomma. Però diciamo che parlavamo di personaggi preordinati, no? Parlavamo del fatto che alcuni videogame, secondo me, tipo The Last of Us in particolare, non tanto nel gameplay e quindi nella storia, che è chiaramente predefinita, soprattutto il finale, però nel modo in cui tu puoi approcciare il personaggio, no? Cioè, nel senso, come lo puoi far arrivare lì, diciamo, anche quello è, però nel modo in cui tu te lo racconti, diciamo, ci può essere una trasformazione. Quindi, cioè, alla fine siamo sempre noi quelli che gli diamo qualche cosa, e secondo me questa cosa vale di più in un gioco come The Last of Us, che è un action adventure, piuttosto che con un Mass Effect che in realtà alla fine sì, tu puoi prendere determinate strade, c'è cioè il karma, se sei più buono, se sei più cattivo, se te le trombi o non te le trombi, però boh, poi alla fine mi sembra molto più guidato a livello proprio mentale, dico, insomma. Non so se sei d'accordo, Valerio. Allora, un gioco come Mass Effect ha un'arma in meno per quella che è l'interpretazione, per quanto sembri strano, perché dai, roleplay, hai le scelte multiple, hai il karma, renegade, paragon, quello che ti pare. Sì. Gli manca la narrazione e medesimazione come gameplay. Nel senso, in The Last of Us, nella tua narrazione mentale che ti stai facendo, anche il se ammazzi, come ammazzi, quanto sei brutale, perché è un gioco che poi, soprattutto il 2, però anche l'1, cioè ti faceva pesare quando uccidevi qualcuno, cioè tu lo sentivi, tu giocatore lo sai che stai facendo qualcosa di crudo, di duro, che ha un impatto. E quindi tu, il modo in cui ti muovi, oltre alla tua narrazione interna, è, però il modo in cui ti muovi, il modo in cui agisci, è anch'esso narrazione. Cosa che in molti più strettamente tipici giochi di ruolo in realtà manca. Sì, poi c'è l'impatto emotivo in generale, che è un gioco che ha un alto impatto emotivo, ha modo di trasmettere qualcosa che è che trascende il limite tipico di gioco di ruolo. E poi c'è un'ultimissima cosa che dico prima di ripassare il testimone, che i giochi dove questo capita spesso, ma i giochi dove tu non conosci i pensieri del personaggio, ma conosci soltanto quello che viene detto, quello in generale ti dà sempre tanto spazio di manovra, anche, ribadisco, fuori da YouTube, fuori da gli facciamo i discorsetti col microfono, ma anche a qualsiasi giocatore. Cioè, se tu sai quello che dici, ma non sai perché lo dici, il perché lo dici ce lo metti in mezzo tu. E questo è un po' anche a difesa di Mass Effect, nel senso, io ho portato sul canale, in questo caso, tutta la trilogia, poi, vabbè, anche Mass Effect Andromeda, per chi è un po' masochista, però, nel senso, lì io ci ricamavo molto sui perché dicevo qualcosa. I perché, cioè, fanno la vera differenza quando tu stai interpretando un qualcosa. Perché se tu ti devi limitare alle scelte che ti dà il gioco, è assolutamente una gabbia. Sì. Cioè, ci devi mettere del tuo, alla fine. Ma infatti era proprio questo il punto della questione. Infatti ragionavo proprio su questo, sul fatto che comunque, per esempio, Valerio, nel percorsi che fa, cioè alla fine comunque ci mette il suo... Ma anche su The Last of Us 2, no? Cioè, sì, lì ci ho messo molto. Diciamo che il preordinato sta nel fatto che io sono l'autore e ti racconto una storia più tradizionale, simile a un libro, simile a un film, come vuoi tu, e tu metti la parte del gameplay. E questo di solito è quello che succede in generale, no? E qualsiasi altro YouTuber, per esempio, se lo gioca, può fare un commentary o addirittura non farlo, perché tanto il gioco si racconta da solo, da quel punto di vista, no? Però... Se tu poi alla fine, quando tu sei Ellie, quando tu sei Joel, quando tu sei Abby, alla fine comunque racconti come secondo te quel personaggio sta vivendo quella situazione, secondo me aggiungi qualche cosa, e alla fine non esci dal vincolo del gioco di ruolo. Cioè, non è solo il gioco di ruolo il gioco che ti può raccontare, ti può fare interpretare e raccontare una storia. Sempre del Valerio, poi a rotazione di tutti gli altri. Assolutamente. Quello che appunto stiamo dicendo è che i vincoli sono quelli che ci poniamo noi stessi, quasi, nel senso, perché il bello... Questo torniamo anche al gioco di ruolo cartaceo, no? I vincoli esistono e non esistono. Le regole dei giochi al computer, videogiochi, perché io dico computer perché nasco come giocatore computer, ma ovviamente non sto escludendo le console, le regole lì sono... ferre, a meno di utilizzare cheat e altre soluzioni alternative, però niente ci può imbrigliare la capoccia, per dirla come va detta. E noi ci possiamo inserire come narratori quasi ovunque. Noi abbiamo una grandissima libertà, ed è un peccato non sfruttarla, ed è un peccato che sulla, poi allargando la piattaforma YouTube e quant'altro, si veda poco questa fantasia, perché spesso il valore di intrattenimento è qualcosa di quasi esterno al gioco stesso, spesso è la battutina, spesso è, oppure è quasi telegrafico, semplicemente faccio questo, faccio quello e ok, grazie, cioè, nel senso, per carità, apprezzo il parere, ma non, a me come spettatore non interessa, no? Cioè, poi si entra nel soggettivo. E prima tu citavi, anzi chiedevi anche, no, come uno avesse deciso di intraprendere la carriera, e nel mio caso fu proprio aver visto questo grande buco, questa mancanza di, poi magari ci sono e io non li conosco, però mancanza di persone volenterose di aggiungere una narrativa ai giochi, e io ne ho trovati, ma tutti stranieri, e al che ho fatto, scusate, cioè, ma mettiamocelo uno che parla italiano, che fa una cosa simile, poi interpretata a modo mio, perché poi ognuno è diverso, però presi spunto da youtuber stranieri, e di trovai il mio piccolo spazietto, e da lì ci costruì il mio, e trovai un grande sfogo, ecco. Beh, indubbiamente, forse in Italia c'è Sabaku lì che fa, però già è più didattico da un certo punto di vista, cerca di approntare il discorso in senso quasi accademico, no? Questo cioè, soprattutto su determinati videogiochi. Non so che ne pensa Puccio. Vabbè, Sabaku è un tema a parte, tra l'altro è, diciamo, verticalizzato su una serie in particolare. Io francamente ammetto che nell'ambito youtubico sono abbastanza sprovveduto, nel senso che seguo pochi canali, in realtà quasi tutti di retro gaming alla fine, è un paio tematici su argomenti che seguo. Non so, io ripeto, io ho qualche difficoltà a seguire quel media, forse perché non c'ho più l'età io, non, anche se voglio dire, i contenuti fatti da gente della mia età non mancano, indirizzati a gente della mia età non mancano. In Italia ci abbiamo anche Bittanti che su questa cosa ci si è costruito una carriera accademica. Il problema è che poi alla fine noi parliamo tantissimo dell'aspetto tecnico o del gossip che c'è dietro le produzioni, ma alla fine di come è costruito l'ambito narrativo, di come è costruita la storia, degli scrittori che ci sono dietro, ne sappiamo pochissimo. Io che sono comunque alla fine uno che segue, per esempio non sapevo che l'autore della serie di Mass Effect era anche un autore che io leggevo di fantascienza, che ha scritto parecchi romanzi importanti di Guerre Stellari. C'è tutto un ambito che è quello narrativo, che è conosciuto fino a un certo punto, cioè viene fuori quando vengono tirati dentro grandi nomi, tipo adesso abbiamo From Software che ha tirato dentro George Martin in un prodotto, ma di tutti gli altri autori sappiamo veramente poco. Sì, vabbè, la questione di George Martin diventa quasi... Vabbè, è un nome di richiamo. Oramai diventa la marchetta, perché, vabbè, insomma... Vabbè, non c'ho una gran stima, al di là del Trono di Spade, insomma, che mi è piaciuto tantissimo. Vabbè. Alla fine, l'unica persona che ha fatto, secondo me, narrativa per bene, rimanendo solo nell'ambito videoludico, è stato Kojima. Va bene, è finita la trasmissione, ragazzi, ci vediamo domani. No, scherzo. Lo sapevo. No, voglio dire, si è creato un universo narrativo molto esteso, molto coerente, molto incasinato, per carità di Dio, però è riuscito a emergere non solo come designer, ma anche come narratore. Allora, c'è in chat, questa è riprendiamo un po' il discorso che facevamo prima, purtroppo torniamo indietro perché poi le cose le leggo dopo, vabbè. Perché c'è Vargion, Marco, che ci dice che a lui, insomma, giocare online al gioco di ruolo gli mette un po' tristezza, perché al di là degli ovvi motivi, no, del fatto di essere lontani e via dicendo, perché secondo lui vengono penalizzati tutti quei personaggi che si basano sull'interazione, quindi, cioè, nel senso, quelli che hanno il carisma, che basano sul dialogo, sulla mediazione, piuttosto che quelli che si basano sul combattimento. Questa è magari una riflessione sulla quale, se volete rispondere, partendo da te, Marco. E a te, Marco, voglio anche chiedere se ovviamente cioè, nel senso, se secondo te è soltanto il gioco di ruolo dove tu ti costruisci esattamente il tuo personaggio l'unica maniera che puoi avere tu per interpretare una storia, insomma, anche da fruitore, cioè, nel senso, a volte ti piace anche magari essere accompagnato da una storia che è autorealmente ben strutturata? Allora, parliamo delle sessioni che mettono tristezza. Manca sicuramente tanta l'interazione fisica, però posso dire che dipende tanto dal giocatore. Ad esempio, sto giocando al Cyberpunk Red con un fixer e praticamente l'interazione, il suo modo di porsi, il suo modo di parlare con i personaggi non giocanti è fantastica, quindi dipende anche molto dalle persone. Quindi non lo so. Giocare online può essere è sicuramente più triste, parafrasando le parole di Vargion, Però ti dico, dipende anche tanto da chi lo fa, quindi è questo. Poi per quanto riguarda i giochi che ti permettono di costruire il personaggio o il gioco, allora non lo so, dipende tantissimo dal gusto. Ci sono giocatori che amano avere già tutto predisposto per poter partire, quindi un qualcosa di molto easy, quindi, però tutto già incasellato, e poi diciamo fanno dell'interpretazione quella chiave per rendere il personaggio differente rispetto allo standard. Poi ce ne sono tanti altri che anche di narrazione o semi sconosciuti, che ti permettono di costruire il tuo personaggio come lo vuoi, senza avere grandi classi, con il setting base minimal. Boh, non lo so, secondo me dipende tantissimo da come una persona approccia al gioco. Io quando ho giocato, come giocatore ho apprezzato tutti i giochi possibili immaginabili, Gears, Vampire la Masquerade, Mage, Ascension, tutti, e io diciamo mi divertivo a creare personaggi che mi, nel momento della descrizione del Game Master, mi davano quel qualcosa in più. E quindi non lo so, è particolare come cosa. Allora facciamo così, qui secondo me Valerio e Leonardo hanno già un po' risposto, ma secondo me pure Marco, però la specifico proprio bene, così almeno cerchiamo di levarci un attimo. Se c'è un personaggio che è costruito da voi o che magari è predefinito, che comunque in teoria presuppone un certo tipo di comportamento, qui torniamo un po' più al gioco di ruolo che all'action adventure o le altre modalità, voi ecco, ad esempio facciamo il discorso di Dungeons and Dragons, l'allineamento, no? Cioè, nel senso, se il personaggio è un caotico buono, se è un neutrale cattivo, insomma quelle cose lì, insomma, no? Voi tendenzialmente nel videogioco barra anche gioco carta e penna tendete a seguire quel tipo di percorso? Ho perso l'audio di Simone. Se siete portati a seguire quell'allineamento, è una questione di coerenza, o se tendenzialmente vi piace fa un po' come vi pare. Partiamo da Valerio, che è quello. Va bene. Allora, faccio l'esempio di quello che sarebbe l'allineamento più, che io reputo essere quello più simile alla mia personalità, che è il caotico buono. Per parlare sempre di allineamenti alla vecchia. Esatto, sì, sì, va bene. Allora, se cioè, a me piace che quello sia il presupposto, che è esattamente come io gioco a D&D. Io, una cosa che odio di D&D è proprio l'allineamento. Cioè, non mi piace come meccanica. Infatti, fosse, cioè, la mia house rule di base sarebbe: evitiamo l'allineamento, i paladini, senti, basta che seguono le regole che gli dicono i preti e siamo tutti contenti. Però, vabbè, questa è una visione mia. Però a me piace la coerenza interna alla narrazione, il che quindi non vuol dire per forza coerenza al personaggio, perché il personaggio è un essere pensante, no? Come noi ci evolviamo al mutare delle situazioni, grazie all'esperienza, che non sono solo numerini che ci fanno fare i livelli, ma sono le vere e proprie esperienze di vita che i nostri personaggi affrontano, mi piace pensare che ci possa essere un'evoluzione, che possono essere delle piccole sfumature, dei cambi di opinione leggeri o perfino drastici. La drasticità è più difficile, ovviamente, che, cioè, dovrebbe succedere davvero qualcosa, no, di enorme impatto. Però non mi piace blindare me stesso, cioè, mettiamola così, penso che essere troppo aderenti a un allineamento sia privare noi stessi della possibilità di creare qualcosa di più bello, banalmente, perché ti stai, se no, togliendo tu la gabbia che ti dà il gioco, come dicevo io inizialmente, che è la gabbia, non diamocela da soli, un'altra gabbia. Cerchiamo di essere flessibili, coerenti, che è la cosa più importante secondo me in qualsiasi narrazione, che ci sia coerenza interna. Poi ci possono essere anche i draghi che sparano le palle di fuoco da orifizi non canonici, però l'importante è che sia coerente con l'ambientazione. Fatto quello, vai, divertitevi. Gli orifizi non canonici è bella, Puccio. No, concordo pienamente, per carità di Dio. Medica, di giocare personaggi pregenerati mi è capitato, devo dire, anzi lo trovo anche abbastanza sfidante, perché tutto sommato giocare un personaggio che ti sei scritto tu, volendo, è mettersi un vestito comodo. Giocare un personaggio diverso che ti viene passato, che è stato generato proceduralmente, tipo prima citavamo Cyberpunk 2020, quando ti creavi il background del personaggio potevi o deciderlo tu o tirando i dadi. Farlo tirando i dadi diventava più interessante, perché ti veniva fuori qualcosa che non ti saresti aspettato, e quindi poi eri, tra virgolette, costretto, ma in realtà un piacere, ad adattarti a quello che era venuto fuori, a caratteristiche che non avevi scelto tu. Io non mi scorderò mai, nella mia, insomma, neanche brevissima esperienza con vampiri, giocavamo in ambientazione moderna, chiesi di fare un informatico di 400 anni che si era appassionato alla teoria dell'informazione e voleva usare internet per manipolare le persone, e la persona che faceva da narratore mi disse: non ti faccio interpretare te stesso, perché in quel periodo stavo in fissa con l'utilizzo delle notizie per manipolare l'opinione pubblica. Vabbè, insomma, cose di cui abbiamo discusso più volte. In effetti, boh, forse, ripeto, è più interessante che castrante dal mio punto di vista. Beh, sai che c'era un periodo, poi adesso passiamo a Marco, che io ero, penso, l'antigioco di ruolo per eccellenza, questo anche sui videogiochi, che praticamente quando tu scegli il nome, invece di scegliere, che ne so, nomi, insomma, altisonanti, elfici o cose del genere, io scrivo Simone Pizzi. Ma sapete che io, vabbè, gli altri lo sapranno sicuramente, a te Simone, se non ti è capitato poi te lo linko, c'è una pagina web che si chiama Medicinale o Elfo, in pratica mette una serie di nomi e devi capire se è un nome degli elfi del Signore degli Anelli o il nome di un medicinale. Ah beh, ok, cioè, no, tipo Anziolin. Ma pure Aulin, se volendo, Aulin, esatto. Vedi, lui si chiama Alaulin, quindi Alaulin, cioè, non so Alaulin, se qualcuno di voi, no, vabbè, io figuratevi, cioè, il personaggio, vi lascio il dubbio, non lo saprete mai se è un nome di un farmaco un nome o di un elfo, esatto. No, però ecco, c'è questa cosa, ma questo pure nei forum, no? Tutti, io siccome che sono stato una persona che ha faticato a concepire, ma in generale io, insomma, navigo dagli anni 90, insomma, quindi non è che, però in generale io facevo fatica a sopportare il nickname, quindi pure nei forum ero Simone Pizzi, capito? Cioè, non so se era una cosa di pazzia o di come posso dire, mega egocentrismo, non lo so, però era proprio quando conoscevo una persona, ah, ciao, sono Zippo, no, io vorrei sapere, non voglio sapere dove abiti, però almeno dimmi il tuo nome, no, perché se quando parlo con te e ti dico ciao Zippo mi sta sul cazzo, io preferisco dire ciao Marco, insomma, no, piuttosto che... Però questa era una cosa mia, e quindi io scrivevo, c'erano questi personaggi quando praticamente parlavano, ah, tu cosa dovrai affrontare questo grande Simone Pizzi, e mi rendevo conto che in effetti era una cagata, veniva malissimo sta cosa, cioè, nel senso, però chissà, vabbè, scusate, ho voluto raccontare una stronzata mia, tanto per Marco, quindi allineamento, coerenza, come ci mettiamo? Se un personaggio ha un allineamento deve seguire quella strada, quindi se un personaggio, se è un ladro caotico, deve essere il classico bastardo, Inglourious Basterds, bastardo senza gloria. Quindi secondo me l'allineamento è tutto. Mentre in Cyberpunk 77 o in Cyberpunk l'attitudine è tutto, nei giochi di ruolo in generale l'allineamento è tutto. Come uno approccia al gioco è fondamentale. Io ripeto, come si costruiscono i personaggi nei vari giochi hanno senso, e fare le sessioni, mi è capitato con un gruppo di giocatori che si divertivano ad entrare all'interno delle locande solo esclusivamente per fare a botte con i buttafuori o molestare le cameriere, può essere simpatico una volta, due, tre, però fondamentalmente non c'entra nulla col gioco di ruolo, perché il gioco di ruolo è giocare il personaggio con tutte le sue peculiarità e tutte le sfumature che l'allineamento determinano. Quindi questo. Sì, scusa, ma stavo a ridere perché in chat Cucine ha scritto "ma ero io Zippo". Scusa, è una stronzata, però vabbè. Leo, a te. Allora, innanzitutto mi trovo d'accordo con Valerio sulla coerenza del personaggio. In realtà su tre cose che ha detto che sono molto importanti, secondo me. Quello, l'evoluzione anche del personaggio, perché le cose giustamente possono cambiare. E su quello poi torno a bomba su un'altra cosa. E anche sul fatto del togliere l'allineamento, duro e puro, nel senso del dire questo personaggio io lo gioco da neutrale, sì e no, nel senso quando tu scrivi un personaggio per te già sai che si comporterà in un certo modo e eventualmente si potrà evolvere in base alle situazioni che tira il DM o che tira il videogioco del caso. Quindi secondo me è un po' una forzatura la struttura che pone il gioco cartaceo del dover scegliere per forza qual è quello che farà, cos'è diciamo la struttura che segue il personaggio, perché poi alla fine la fai tu in automatico senza bisogno di quel pezzettino di carta. Però c'è un tranello in cui cadiamo con grande facilità, specialmente nei videogiochi, secondo me, che è quello del cercare di fare le scelte in base al vantaggio maggiore che abbiamo, che un po' ci porta fuori dal gioco di ruolo, e questo ci sforza, questo è quello che dicevo prima, no? Della scelta matura del giocare di ruolo, che è una cosa che ti viene con gli anni, anche nei videogiochi. Perché nei videogiochi tendi a dire sì, però il mio personaggio questo lo salverebbe, però se gli sparo in testa rimedio quella valigetta e ci sono $3,000 dentro che non lo so, cioè $3,000 me li faccio, no? E gli spari in testa subito. E invece con gli anni dici no, ok, il mio personaggio non lo farebbe mai questo, quindi amen, i $3,000 li farò nelle prossime ore di gioco, non posso farli adesso e uscire dal personaggio. Quindi cerchi più di goderti il ruolaggio, diciamo, che goderti i 3K in più per comprarti la pistolina nuova. Puccio? Ah no, Puccio l'hai già detto prima, quindi sì, ci so. Ok, qualcuno è uscito dalla chat. Dai, è uscito, no, è tornato Marco. Marco. Quindi Valerio, ma non so se hai risposto. No, io sono il primo ad aver risposto. Ah, ok, credo. Scusa, ok. Non c'è problema. Non so, sì, scusate, ha già risposto, Perfetto. C'ho un'ultima domanda, consideriamola così, poi dopo magari aggiungeremo delle piccole cose a secondo di alcune riflessioni finali che magari volete fare voi, a prescindere insomma dal vostro percorso, no? E, allora, secondo me il gioco di ruolo e il videogioco, alcuni videogiochi sono forse i medium che permettono di più, no? L'interpretazione, no? Io quello che voglio, questa è proprio una domanda personale rivolta ad ognuno di voi. È tutto questo, vabbè, per Marco parzialmente l'abbiamo capito, ma insomma io penso che poi l'abbiamo capito un po' per tutti quanti. C'è questa cosa dell'essere la gioia del divertimento dell'interpretare un personaggio, quindi questa visione anche del corso di teatro quasi, no? Per vincere, magari superare anche, che ne so, anche dal punto di vista personale, superare magari un certo tipo di timidezza, insomma usare il gioco per utilizzarlo come strumento per altri aspetti della propria personalità. Ma in fondo siamo un po', cioè abbiamo il gusto del narratore, cioè del focolare, del raccontare storie davanti al fuoco ad altre persone e magari coinvolgerle nel nostro racconto, Marco? Guarda, per me è tanto narrazione, giustamente, perché viste le premesse che ho fatto... è così, secondo me è fondamentalmente raccontare una storia e farla vivere agli altri in modo più intenso possibile, secondo anche quello che il master l'ha pensata o il game designer l'abbia pensata, perché secondo me è questo, è fondamentale la narrazione mista poi con l'interpretazione, fanno diventare la sessione, l'avventura o la giocata al videogioco la cosa fondamentale. Quindi, Leonardo, sindrome del focolare? In realtà, guarda, tu chiaramente la butti più, immagino, sulla questione dell'essere DM e del narrare, no? Immagino, sì, mi sbaglio. Sì, ma anche il modo in cui voi affrontate il vostro canale YouTube. Poi dopo c'è una domanda specifica per te e una domanda specifica per Valerio. Noi siamo un po' DM dei nostri canali YouTube, ovviamente, quindi dobbiamo un po' creare una storia dietro ai personaggi che interpretiamo ogni volta, e poi specialmente nei giochi che ti lasciano un po' la catena più lunga, no? Come appunto alcuni RPG che non sono su rotaie, però sai che c'è, io parlo poi dell'esperienza dall'altro lato, quella del cartaceo, è un lavorone essere DM. Io infatti stimo molto Marco, perché appunto ha parlato molto dell'essere DM e immagino che lui lo faccia veramente fisso come cosa che ripetuta, diciamo. Io ho avuto quell'esperienza e ci sono rimasto folgorato, scottato. E, però appunto, cioè, è chiaro che noi su YouTube diventiamo un pochino i DM del nostro canale, quindi dobbiamo raccontare, dobbiamo aggiungere, e quello è quello che diceva prima Valerio, no? Bisogna cercare di creare qualcosa per chi ti guarda, quindi altrimenti rimane un gameplay senza nulla. E lì dipende anche molto da come è fatto il gioco, secondo me. Quindi è sempre legata anche questa domanda ai limiti che hanno i videogiochi grandi su certe tematiche. Perché è ovvio che un videogioco tipo Cyberpunk 2077, se vai a fare la quest principale e parli ben poco, purtroppo, perché il gioco ti interrompe costantemente con cutscene su cutscene all'infinito e sostanzialmente fai magari delle ventine di minuti anche in silenzio. Quindi il focolare dello spegne il gioco. Sì, beh, perché poi dopo rientriamo nella contaminazione un po' di quello che dicevamo prima, no? Quindi videogioco, medium più assimilabile al cinema e via dicendo, poi va bene, faremo altre puntate su questo. Però tu, per esempio, in maniera diversa da Valerio, sei comunque un narratore, cioè in maniera diversa perché lui lo fa proprio in un'altra maniera, però sei comunque un narratore, perché io, ad esempio, come già ti ho detto magari in privato, stimolato da altre persone che mi hanno detto: ah, ma come, non hai mai giocato il primo Vampire, come può essere che non l'hai giocato, me lo so venuto a, siccome che comunque non mi ci metterei adesso a giocarci, me lo so venuto a recuperare nel tuo canale, e tu lo racconti il gioco, cioè comunque racconti la storia, racconti il gioco, accompagni, no? Quindi è comunque la narrazione, insomma. E mi accompagnano anche quelli che mi seguono, eh. Io penso che non ho mai imparato tanto su giochi, appunto, nello specifico Vampire, poi ho imparato tantissimo anche da chi mi segue, quindi non solo io racconto quello che so a livello di lore, perché comunque poi Vampire è come tanti altri RPG, è pieno, stracolmo di storie, personaggi che poi appaiono anche nel videogioco, molti di loro che appunto vengono trovati anche nei manuali, e in più ti aiuta anche chi ti segue spiegando di meccaniche che non sai, raccontando di storie su clan che non conosci, magari nascosti, che erano in versioni vecchie del gioco. Ora, ho imparato veramente un sacco da quello, e quindi diciamo che in quel caso lì la fiaccola un po' ce la passiamo addirittura tra chi crea il content, tra il content creator e il viewer che comunque ti dà una mano, ti spiega, certo. E lì ti fa capire l'importanza della community, perché in molti casi può capitare magari quello che ti dice: minchia, giochi male, non sai nulla, però non aggiunge nulla al content che tu stai portando, mentre poi ci sono persone che sono i viewer preziosi che ti aggiungono, ti dicono: sì, quello l'hai fatto bene, però devi sapere anche che questo personaggio appare qui e ha questa storia di background, e quello arricchisce a quello che hai portato tu anche la tua conoscenza personale e il let's play che guardano poi gli altri. Quindi quello è uno dei punti di forza di YouTube dal punto di vista del narrare qualcosa, quindi il poter collaborare con chi ti segue. Beh, anche questo sì, si crea proprio questo legame con la comunità, hai ragione. E Valerio, invece tu, che sei proprio molto più narratore, proprio nel senso proprio più personale anche del termine, c'è sta sindrome del focolare del... Allora, io devo fare una premessa. Io sono una brutta persona e sono okay, quella brutta persona che non riesce a starsi zitta al cinema. No, quello è brutto, eh. È una cosa che chiunque dalla mia compagna, i miei amici, cioè tipo andiamo al cinema, no. Vacci da solo. Perché io c'ho proprio questa cosa che non riesco, cioè mi tengo un cecio in bocca. Devo elaborare su quello che vedo e ce l'ho. Quindi le cose non è che fossero direttamente collegate, ma è stata quasi comunque una quasi naturale conseguenza. È nato da altro, ma poi mi sono trovato un po' a casa nel narrare le cose, perché per assurdo che possa sembrare, io ho questa narrativa già nella capoccia. Ho solo dovuto dargli infiato, dargli bocca. Quindi sì, c'è questa narrativa da focolare e la intendo molto in questo senso, proprio perché... quando devo immaginare poi lo spettatore, no? L'utente che si affaccia al mio canale YouTube, io me lo immagino steso, gambe incrociate su un bel cuscino, birretta, se fuma anche il sigaro, e sta là e si gode il racconto. Ed è per quello che non mi scandalizzo del fatto che ci siano relativamente poche views, che i commenti non siano tanti, ma io vedo che ci sono comunque molte persone che poi mi cicciano fuori dopo anni: ti seguo dal video numero uno. Premessa, ne ho fatti penso quasi 3000 ormai, nel senso, dopo 7 anni mi hai detto ciao. Cioè, ne ho tante, ma perché? Perché io sono un luogo dove la gente va per rilassarsi e godersi una storia. Sì, sì, beh, lo fa questo effetto, in effetti, proprio la sindrome del cinema espanso, come si può dire, sì, sì, per certi versi, perché comunque c'è la voce narrante che comunque ti accompagna anche in un modo lento, riflessivo, in modo proprio con un ritmo totalmente avverso alle logiche di YouTube, che è comunque fatto dei ragazzini che comunque vogliono vedere il gioco e vogliono la battuta, quindi vogliono la caciara, vogliono insomma il rumore, come insomma è anche abbastanza ovvio. In chat, tra l'altro, sull'argomento precedente, sull'allineamento, sono tutti quanti d'accordo. Vedo che sia Vargion che Amor, insomma, sono d'accordo sul fatto che comunque l'allineamento aiuta l'interpretazione, è fondamentale soprattutto nei giochi più strutturati, e addirittura aiuta insomma le dinamiche sociali, secondo i nostri due amici in chat. Questo è, penso, abbastanza, sono abbastanza d'accordo. Tu, Puccio, invece la sindrome del focolare non ce l'hai mai avuta, mi sa. No, io a raccontare sono una scarpa, però, però se mi faccio due conti e penso letteralmente a quello che mi circonda pure in questo momento, videogiochi, libri, fumetti, cinema, serie TV, quello che sia, alla fine è la versione moderna della storia che ti viene raccontata. Io su quella sono sempre stato particolarmente suscettibile. Io non riesco a lasciare una storia a metà, devo sapere come va a finire, se c'è un seguito me lo devo vedere, leggere, capire. Oddio, ci sono state cose troppo brutte anche per me. Quindi io, focolare sì, ma sono quello che sta seduto e che ascolta. E vabbè, ognuno ha il proprio ruolo nel mondo del racconto e del ricevere il racconto, insomma, è anche giusto. E devo dire che spesso e volentieri anch'io mi trovo dalla parte dalla parte di quello che sta seduto ad ascoltare, e se chi, perché poi la differenza non la fa tanto la storia, ma quanto chi te la racconta, e questo secondo me è una cosa abbastanza importante. Allora, 3 domande specifiche per ognuno di voi, quindi cioè proprio domande indirizzate. Marco, nel tuo giocare di ruolo, nel fare master, nel fare narrativa interattiva più tradizionale, diciamo così, non hai mai pensato a farlo tramite Twitch, tramite YouTube, quindi condividerlo magari con un pubblico potenzialmente più ampio? Allora, io non ci ho pensato io direttamente. C'è qualcuno che mi ha detto: ma perché non fai, non dici, non vai? Non ne sarei capace, per vari motivi. Sicuramente quando capitava di fare le sessioni, venivano persone a vedere la sessione, mi imbarazzava e mi sentivo non naturale. E quindi sia Twitch che YouTube non riuscirei, perché ripeto, non mi sentirei naturale, mi sentirei osservato e non riuscirei ad essere. Vabbè, sarebbe una distrazione. 110%. Sarebbe una distrazione, sì, sì. Certo. Vabbè, quindi la tua comfort zone è comunque la stanzetta, proprio quella tradizionale, quella con... Sì, no, la comfort zone è giocare con un gruppo di persone che sanno già che io ho determinati tiribizi o vezzi quando si racconta, quando si parla, quando si tirano i dati, quando che sono sempre gli stessi che non debbano essere criticati, fatti, quindi non ripeto, è secondo me quella timidezza di quando ero bambino che rimane solo in queste situazioni. Bene, eh sì, lo capisco, da una parte lo capisco, soprattutto perché poi comunque queste sono conseguenze della nostra indole fondamentalmente. Leonardo, invece, il tuo è un canale, come abbiamo detto già all'inizio, estremamente verticale, proprio completamente dedicato prevalentemente al gioco di ruolo, ma quasi in senso didattico, oserei dire, a un certo punto, al di là del discorso narrativo. Tu sei comunque un giocatore molto tecnico, cioè, e ti piace raccontare questo tuo essere tecnico, quindi questi tecnicismi, spieghi anche molto su come la costruzione del personaggio, su come si combatte, come preferisci combattere tu e via dicendo. Ecco, parlaci un attimo di questo aspetto qui. Quello è un po' l'aggettivo sulla quale gira intorno tutto quanto, sia il canale che le build che mi piace fare dei personaggi, che il metodo che mi piace utilizzare per mandare video in maniera costante, eccetera. Ed è questo modo solido di fare le cose, nel senso quadrate. Stesso vale per il metodo che utilizzo delle build dei miei personaggi, nel senso a me piace che la build di qualsiasi PG sia consistente. Non mi piace fare il critico da 10k una volta tanto, ma preferisco fare 100 ogni singolo colpo e resistere in maniera tale che riesco a tirare giù i nemici. Questo poi si riflette su tutti quanti i let's play e chiaramente cerco di aiutare anche chi magari può avere difficoltà, perché gli RPG sono un discorso un po' differente rispetto a magari giochi che portano tutti. Quello che diceva Valerio prima, no? Valerio ha detto cani e porci, è vero, ci sono alcuni RPG che veramente RPG o giochi in generale li portano cani e porci, li portano tutti quanti. Alcuni sono un po' più oscuri, un po' più di nicchia, un po' più complessi, e possono essere complessi anche al contrario, possono esserlo anche per me, perché io ho portato Pathfinder Kingmaker, è stato un incubo per me. Io, se non c'era il buon Emanuele Cataldi che mi aiutava passo passo in ogni video spiegandomi le meccaniche del gioco, perché ero completamente all'oscuro quando lo cominciai, l'avrei probabilmente smesso di giocare. Quindi è stato grazie ai viewer, a lui e ad altri, che mi hanno spiegato un po' le meccaniche. Comunque sostanzialmente cerco di mantenermi costante, sia nella tipologia di giochi che gioco, nella tipologia di build che mi piace fare, che nel metodo che utilizzo di narrazione. Quindi cube, proprio un cubo, tutto quanto, un quadratuzzo. Beh, che poi, cioè, in realtà il gioco di ruolo, poi alla fine, mo al di là del discorso strettamente narrativo, se andiamo a parlare un attimo proprio un po' più approfondito, vabbè, lasciamo perdere Cyberpunk, che sia un gioco di ruolo, però diciamo è progettato per essere il più mainstream possibile, no? Questo non significa che è più facile o più difficile, no? Però puoi min-maxare tanto. Dico solo questo. Ci puoi? Sì. Min-maxare, io faccio dei critici da 170k e sono a livello 35, cioè faccio delle robe. Ma comunque chiudo la parentesi. No, cioè, ok. Non serve quasi neanche min-maxare, quasi. È talmente easy per alcuni versi che praticamente, cioè, non sciotti tutto, sì, tanto, tanto facilmente. Ecco, dico, questa vocazione, diciamo, sul gioco tecnico, no? Che tu comunque, ecco, io ho seguito anche se devo finire, no, di vedere, comunque ho seguito tutto il Baldur's Gate 3, perché tanto vabbè, cioè non l'ho proprio seguito tutto, l'ho seguito a stracci, perché poi ho detto vabbè, se un giorno ci dovessi giocare poi in realtà, che poi tra l'altro è stato penso anche un inferno col fatto che in Early Access, con i glitch, con i bug, ma che c'è, no, guarda, come Early Access ne ho giocati veramente alcuni che sono stati degli incubi veri, questo è stato piuttosto smooth alla fine, un paio di crash, niente di eccessivo, dai. Che personaggio hai fatto? Che io ero curioso. Ho fatto un guerriero e me ne pento un po'. Perché? Perché questo è il problema alla base degli RPG nei videogiochi, secondo me. Perché quando tiro un colpo con la mia bellissima spada a due mani al tavolo, avrò il mio Marco che mi racconta come quel fendente arriva verso il nemico, come magari spacco, faccio uno zero, spacco quattro barili, casco per terra e poi casco di sotto magari e mi spezzo una gamba, succedono pasticci. Nel videogioco purtroppo tutto questo non c'è, ci arriveremo con la tecnologia un giorno, ma adesso non c'è, quindi sostanzialmente il mio attacco di base sarà solo l'ennesimo attacco di base, e il guerriero purtroppo su D&D non è che fa chissà che cose incredibili, levando la parte del DM ovviamente, io parlo della trasposizione videoludica, quindi è un po' noioso secondo me. Sei soddisfatto, Puccio? Sì, no, stavo riflettendo sul fatto che prima o poi quella di Access mi ci iscriverò anch'io. Ah, no, vale la pena, vale ogni lira, no, guarda, no, figurati, io vale proprio stato ogni lira. Ho fatto delle maratone sul 2 che insomma, Puccio preferisce fare il mago perché è così casta. Quindi diciamo il terzo mi attira tantissimo. Ho voluto saltare l'Early Access, ma cioè, ho finito Cyberpunk, penso che sarà lo step successivo. Beh, certo, cioè, a fare un personaggio diverso. Io di solito faccio il ladro o il paladino, diciamo, non c'ho mezze misure da quel punto di vista. Però ho visto la varietà e la customizzazione estrema che si può arrivare là dentro. Volevo provare a fare qualcosa di diverso. Beh, che Puccio, tu vuoi fare il mago così casti le palle di fuoco dentro i centri commerciali. Sì, sì, esatto, dagli orfizi non canonici. Bene, invece sul discorso del canale di Valerio, io penso che poi involontariamente, cioè, abbiamo detto abbastanza, abbiamo detto tutto, perché comunque, no, tutto, cioè il canale va esplorato assolutamente, perché secondo me è un modo intelligente di fare YouTube, di fare comunque una sorta di intrattenimento all'interno di un contesto, come abbiamo detto anche per quanto riguarda Leonardo, ma forse per il canale Ciriola Let's Play è anche, scusa il termine, dico cose tra virgolette, è anche peggio, perché se non altro allora Leonardo dà una connotazione tecnica, invece Valerio dà proprio una connotazione narrativa, che è la cosa proprio più difficile secondo me. Ecco, diciamo, la domanda che ti faccio io è: sei veramente convinto di continuare a fare questo tipo di lavoro, sapendo che comunque, come hai detto tu, c'è comunque una community magari silenziosa che sta lì e ti segue per come lo fai, e che magari se tu un giorno dovessi cambiare ci cioè, sarebbe il rischio comunque anche di perdere quello che hai acquisito? Allora, quando tutto partì, io ebbi anche un periodo di ambizione in cui dissi: qui adesso è una cosa innovativa, non lo fa nessuno, sicuro che spacco il mondo. Ovviamente non è successo, ma era palese non sarebbe successo, ero tanto io che non avevo realizzato bene la situazione, e proprio perché non ci sono i presupposti, cioè proprio non è destinato. O ci si dedica, prima è stato nominato Sabaku, che per inciso è l'unico italiano a cui personalmente, di youtuber nel mondo del gaming, a cui abbia fatto un Patreon a spot, non sono uno di quelli, però per dire che è una persona che rispetto dal punto di vista lavorativo, proprio nel senso per come si applica, per come fa, ma o vai sul lato Sabaku, quindi per dire ti impegni, c'è cioè un focus talmente grande, un approfondimento talmente grande, uno studio, cioè diventa a tutti gli effetti un lavoro, no? Per proprio, cioè ci devi dedicare quella mole di tempo, ci devi costruire talmente tanto dietro, e a quel punto spicchi e vai a prendere non solo la mini nicchia, ma prendi una nicchia che in realtà però è bella cospicua, e allora diventa un lavoro, oppure scegli di continuare i tuoi altri interessi nella vita e divertirti sul canale, che diventa un hobby. Nel mio caso, come ci siamo detti anche in privato se non sbaglio, è diventato un hobby che mi paga la benzina. Quelle sono le cifre circa su cui viaggio, e per ora vanno bene. Ovvio che c'è sempre quella piccola parte di me che vorrebbe sfondare, ma non sfondare nel senso, capito, diventare la personalità, anzi è una cosa che aborro e spero non succeda mai quello. Non per il lato economico, per il lato della notorietà. Ma diciamo che comunque ci sta quella voglia di esplorare ancora, di provare nuove cose, di vedere se qualcosa piace, ma mantenendo nell'essenza il mio stile. Cioè sono ancora la laborioso, adesso mi sto prendendo cose perché sto iniziando a fare più cose su Twitch, anche se ho poco tempo, sono stressato, c'ho il lavoro, sto comprando casa, no? La vita è così per tutti, ognuno c'ha la sua cacofonia di distrazioni, però alla fine è un hobby che mi stimola la creatività, mi stimola l'interesse. Ovvio c'è anche il suo contrappeso, cioè il suo stress, la sua stanchezza. A volte registri quell'episodio che magari non lo volevi registrare, ma per coerenza, per mantenere una pubblicazione costante lo fai. Però la trovo una sfida stimolante, quindi in fondo, in calcio a tutto questo discorso, no, non sono pentito. Ma ovvio non è una scelta semplice o facile, però è quella che penso sia la più giusta. Vabbè, quella che ti calza fondamentalmente. Anche esatto. Perché poi per far diventare YouTube qualcosa di più lo devi trattare come un mestiere. E allora esatto. A quel punto devi dedicare 8 ore al giorno come un lavoro qualsiasi, e poi bisogna vedere se dopo, ok, sì, è vero che fai quello che ti diverti, però devi vedere se dopo ti piace, insomma, più ancora, perché poi dopo, quando una cosa assume una dimensione diversa, dove c'è anche un fattore di obbligo, no? Quasi di dovere, cioè tu comunque devi mantenere quel tipo di costanza perché devi mantenere quel tipo di entrata, altrimenti, insomma, diventa un po' tutto più complicato. Bene, allora, ragazzi, io direi che mi è piaciuta questa puntata per quanto complicata sia stata, perché devo dire... Devo dire che è stata un po' complicata, ma poi cercheremo con il grande potere dell'editing, per voi che l'ascolterete in podcast non vi accorgerete quasi di niente, vi accorgerete perché chiaramente, insomma, vi accorgerete, però insomma non vi accorgerete quasi di niente. Allora, Marco, un pensiero finale su gioco, videogioco, interpretazione, una cosa che tu ti eri appuntato e che magari volevi dire e che non è stato detto magari durante la puntata. Una cosa che volevo dire e che non ho detto, io ti dico, giocare che sia online, che sia a videogiochi, che sia giochi di ruolo, è fondamentale, perché quando smetti di giocare, quando smetti di interessarti a cose, è lì il momento. L'unica cosa che posso dire che mi sto divertendo, oltre a giocare con i miei amici di sempre, i giocatori che incontro lungo la mia strada, è quello di far innamorare al gioco in generale anche i miei figli. Siamo io e mia moglie, siamo una coppia che quando possiamo, invece di andare in giro con l'iPad per far giocare i bambini o fargli vedere i video su YouTube, portiamo i giochini da tavola. La cosa che non ho potuto dire fino adesso è che l'importanza del gioco, che sia videogioco, che sia gioco da tavola, che sia gioco di ruolo, è questa, secondo me. Bene. La stessa cosa la chiedo a Valerio, parto da lui invece che da Leonardo, seguendo il solito giro, perché in realtà, oltre a dire il suo pensiero, la cosa che magari si era preparata e magari non è stata trattata, o comunque un pensiero finale, c'è Vargion che dice: ma che termini sono min mixare? Quanto sono ignorante? In realtà, guarda, non lo sapevo manco io, quindi... Min maxare. Allora, il min maxing è un approccio che si ha alle volte sui giochi di ruolo, dove si fanno personaggi totalmente sbilanciati, che sono focalizzati proprio a cuneo sul massimizzare un aspetto. aspetto. Per esempio, il classico esempio che si può fare è il, per fare proprio la cosa semplice, il barbaro che ha 20 in forza e 1 in intelligenza, per fare il concetto. Cioè tu stai puntando tutto su un elemento, ma su quell'elemento spacchi il mondo. Quindi se tu sei molto focalizzato, quindi crei una build che, ovviamente questo è un esempio molto banale, per esempio la mia build tipica, che io sono un, in quasi tutti i giochi per esempio uso un fucile di precisione, dove ci sono armi da fuoco intendo, le mie build sono sempre incentrate su danni alla testa e percentuale di critico. Ad esempio Leonardo diceva che lui non apprezzava a fare una volta 1000 danni, preferisce farne sempre 100. La mia build punta a fare 99 volte su 100 1000 danni. E lì diventa aver min-maxato un aspetto. Sì, penso che lui si riferisse più all'italianizzazione del termine, perché in effetti è un po' una tendenza quasi youtubesca sta cosa, no? Di utilizzare termini. Ah, no, si usa anche nei giochi di ruolo. Sì. Okay, no. Io me la ricordo per io l'ho conosciuta proprio comunque al giochi di ruolo al tavolo, min-maxare, è arrivata dopo per quanto mi riguarda nel mondo del gaming. Niente, Mark, non sei ignorante, devi stare, non partecipare più alle chat durante le live. Diciamo che la maggior parte dei giochi di ruolo, comunque almeno nella mia esperienza, si parte giocando dai manuali in inglese, che vengono sempre trasposti mesi, barra anni dopo, e quindi quasi sempre io ho giocato in manuali in inglese, quindi... se avevi dubbi sulle regole andavi nei forum in inglese, quindi c'era sempre questo mondo. Poi ovvio si partiva dal fatto che uno debba conoscere l'inglese, perché sennò è complicato, ma poi discutendo anche con gli amici, non avendoci una traduzione canonica di certi termini molto di nicchia, molto specifici, si finiva per italianizzare questi termini, che poi appunto è diventato uso comune, diciamo una norma. Io quando iniziai a giocare a D&D Scatola Rossa era solo in inglese, infatti avevamo la fortuna che il papà di un nostro amico ci fece tutta la traduzione, tutto quanto, ci portò Glantry, che bei ricordi. Però nel senso, l'inglese ci accompagna da sempre nel mondo del roleplay, secondo me. Beh sì, ma in generale comunque anche nel mondo dei videogiochi pure, cioè spesso e volentieri questa cosa del termine italianizzato veniva quasi naturale, insomma, perché tu conoscevi il termine in quella lingua lì e poi alla fine comunque lo riadattavi. Comunque Valerio, un tuo pensiero finale riguardo a questo discorso gioco, videogioco, interpretazione? E il discorso che posso... qui è un consiglio all'ascoltatore, ed è il provarci, perché essere spettatori della storia è stupendo, e io lo dico in primis perché sono spettatore di tanti altri che raccontano storie, ma è molto soddisfacente farlo sia al tavolo da gioco carta e penna e dadi, sia con un qualsiasi gioco di ruolo o non. Provate, perché vi renderete conto che come quando ti mangi la pasta asciutta fatta in casa che ti sei fatto tu, che ha un sapore diverso, la stessa cosa è giocare con la storia che ti stai creando tu nella tua testa. Vedete che ci sono delle sfaccettature, delle sfumature, un apprezzamento diverso da quello che vi sareste immaginati. Che poi, giustamente Leo ci dice, io ero rimasto a killare, sì, one shottare, troppi ce ne stanno. Comunque, sì, sono d'accordo. E poi, io veramente non faccio nessun tipo di preferenza, perché a modi diversi mi piacciono entrambi, sia il canale di Leo che di Valerio, perché hanno degli approcci diversi, ma sono state delle scoperte, tant'è che quando ho pensato a questa puntata sono state le due persone che ho pensato, ho detto, gli ho scritto, ho detto vediamo che succede, poi magari sai tante volte la gente non ti risponde oppure dice ma chi cazzo sei, anche perché può succedere anche quello, invece loro sono stati gentilissimi. E, Leo, quindi il tuo pensiero finale. Allora, il mio pensiero finale è sempre sul tiriamo fuori altre parole, tra l'altro, oltre a killare, sul roleplayare, no? chiaramente mi unisco al coro di Valerio sul fatto di provateci, perché vi apre un mondo, specialmente dal punto di vista, diciamo, leviamo la parte cartacea, ma provateci pure se siete videogiocatori nel videogioco stesso. E in più aggiungo che cercate di non cadere nel tranello che dicevo prima, quindi sforzatevi di non cercare di fare scelte per migliorare la vostra posizione nel gioco, quindi di avere quel punto esperienza in più, o quei 5k soldi in più, o quell'arma in più, ma pensate profondamente quello che farebbe il vostro personaggio in quel momento. Da lì poi il resto è discesa. Bene, Puccio, tu c'hai una tua considerazione finale, poi andiamo ai tuoi libri, così poi chiudiamo. Oh, ma hanno già detto tutto loro che sicuramente in questo ambito hanno esperienze decisamente molto migliori e molto più profonde delle mie. Non voglio entrare nel merito dell'italianizzazione dei termini tecnici, sennò penso che noi ne usciamo più. Comunque, veramente. Soprattutto tu che c'hai il cognome che da console diventa console, quindi c'è. Sì, no, assolutamente, io sono il primo esempio in questo. Io in realtà però ne ho imparate di più giocando da tavolo, per esempio giocando a Blood Bowl, ne ho sentite di tutti i colori, per non parlare di quanto ne sento tutti i giorni nel mio lavoro. Io mi accodo a chi ha consigliato di provare almeno una volta nella vita, perché comunque è un'esperienza che ti fa capire anche diverse cose. Non a caso viene usata anche nei corsi di formazione aziendale, role playing o nelle terapie psicologiche. È un'esperienza che va fatta. Vabbè, se uno si appassiona, insomma, è un hobby fantastico, dispendioso ma fantastico. Il discorso del gioco di ruolo risale alla notte dei tempi, senza arrivare alle codifiche moderne, insomma, voglio dire, però cioè è nell'insito proprio antropologicamente nella natura umana, quindi anche l'interpretazione del gioco, quindi voglia. Ma già da quando ero ragazzino che c'avevi Big Jim e comunque interpretavi Big Jim in qualche maniera, quindi c'è un nesso, no? Poi dopo tutto quanto è stato più codificato, si è espanso in varie ambientazioni, in varie situazioni, quindi e abbiamo avuto poi modo di divertirci in tantissimi altri contesti e situazioni, però insomma voglio dire è proprio nella natura umana, insomma, cioè anche c'è anche chi piace vestirsi da infermierina, insomma anche quello è un gioco di ruolo, insomma, tutto sommato, no? Bene, Puccio, allora i tuoi libri di questa puntata, anzi il tuo libro, però mi sa che sono due stavolta. No, in realtà sono due, ma tenderanno a essere sempre due, ormai non ce la faccio più a dirne uno solo, perdonatemi. Allora, il primo che mi è venuto in mente quando abbiamo parlato del tema della puntata è stato in realtà uno dei primi che ho letto approfonditi in ambito videoludico, come molti libri di questo tipo, è nato come tesi di laurea. Si chiama Dungeons and Desktop, è di un ragazzo inglese, americano, che si chiama Matt Barton, che ha lavorato alla sua tesi di laurea scrivendo la storia del gioco di ruolo su computer, quindi è partito dai primissimi esperimenti, quindi Colossal Cave, Calabet, e poi è arrivato nella seconda edizione, si è spostato fino a fine 2018 circa. C'è sia una narrazione dal punto di vista cronologico, quindi poi come questo genere di giochi si è evoluto nel corso degli anni, sia una sorta di raccolta dal punto di vista delle ambientazioni e delle tipologie di gioco. Pur essendo, ripeto, nato come tesi di laurea, non è didascalico, non è una cosa che cerca di essere dottrinale, in realtà è un libro molto divulgativo, molto interessante, anche perché tira fuori giochi che io magari avevo anche giocato ma che mi ero completamente dimenticato, e va a sottolineare alcune caratteristiche introdotte magari proprio in quei giochi che poi sono diventate di uso comune, o giochi dimenticatissimi o che magari da noi non sono mai neanche arrivati. L'altro libro di cui volevo parlare è un po' più generalista, per un po' è stato anche uno dei best seller di Amazon, ed è la raccolta Arte ed Arcana di Dungeons & Dragons. È una raccolta di immagini, di testi, di schizzi preparatori per le illustrazioni di tutto quello che riguarda il mondo di Dungeons & Dragons, quello proprio classico, quindi dalle prime illustrazioni di Elmore della scatola rossa, della scatola blu, della scatola verde e della scatola nera. Per cui fortunati, io sono uno di quelli che sono riusciti all'epoca a comprarle tutte quante, più tutta una serie di curiosità sulla genesi del gioco, sulla sua evoluzione, sui giocatori storici e sui personaggi famosi che si sono dedicati all'hobby. All'oppio? In questo libro che a me è piaciuta parecchio è quella dove, anche se vengono citate non in maniera approfondita, le varie ambientazioni, quelle che poi sono diventate più importanti, tipo Dragonlance, a cui io sono molto legato, i Forgotten Realms, che sono l'ambientazione in cui poi si va a incastrare Baldur's Gate, fino ad arrivare a quelle un po' più strane, tipo Darksun, il mai troppo compianto Ravenloft, che purtroppo, a quanto ho capito, nella quinta edizione ancora non si è visto, correggetemi se sbaglio. Che a me me lo chiedi? Non so, siccome ci abbiamo dei giocatori di ruolo molto più. Ho perso il nome di cosa ti mancava. Ravenloft. Nella quinta io ancora non l'ho visto. Non l'ho visto, neanche io. Però non sto seguendo così assiduamente la quinta. Allora, Marco. Non c'è. Vedi? Se lo dice Marco, c'è. Non c'è. No, non c'è. Io ho Dragonlance tutta la vita, però stranamente, anche se non sono un grande appassionato di horror, una di quelle dove mi sono divertito di più a giocare è stato proprio quella. Sarà che poi si ricollega a Dragonlance per il personaggio di Lord Soth. Libro che esiste in due versioni, un'edizione base, che poi è quella che ho comprato io, un'edizione deluxe con sovracoperta e fregio dorato, che insomma è parecchio allettante. Se vi capita, su Amazon si trova ancora a prezzi abbordabili. Tutto qui. Bene, link anche di questi due libri ovviamente nelle note dell'episodio per tutti coloro che scaricheranno ovviamente questa puntata in podcast. Velocissimamente vi ricordiamo, domani sera c'è Michela De Paola con Mono alle 21 con me, ci sono anch'io, faremo tutto un percorso sulla musica e il cinema, sarà una cosa carinissima. Ovviamente sabato sera, quindi sempre domani sera alle 23:30 c'è Runtime by Night. Per quanto riguarda invece Ludico Forum, la prossima settimana abbiamo una puntata con un titolo complicatissimo, l'HD, dell'HD Plus, dell'HD HDR, insomma è una cosa veramente, ragazzi, sono stato un genio grande che l'ho scritto io sto titolo e soprattutto sono riuscito anche a dirlo. Parleremo di varie cose relative a quello che è ovviamente la possibilità di consumare nuovi dispositivi senza avere ovviamente magari ulteriori dispositivi tipo televisori adatti, monitor adatti e via dicendo. E la prossima settimana, la settimana successiva invece parleremo finalmente di Cyberpunk 2077. Tra l'altro Valerio e Leonardo ovviamente sono eventualmente volessero partecipare, sono anche invitati, insomma, senza problemi. Anzi, in un futuro che magari capita, insomma, di trattare argomenti, spero, insomma, vogliano tornare a farci visita all'interno del nostro podcast, non so. Mi inserisco un attimo, perché visto che parleremo di Cyberpunk 2077, io vi preannuncio che io, Walter, Lobby stiamo discutendo di fare qualche puntata a tema Cyberpunk, non parlando solo del gioco, ma anche degli altri giochi, del gioco di ruolo, dei libri, dei fumetti e dei racconti che girano intorno a questa ambientazione, di cui tutti e tre siamo abbastanza appassionati. Sì, io diciamo che in redazione avevo saputo che in redazione c'era questa discussione, ma no, fino a che non c'era qualcosa di pronto mi limitavo. Non c'era, ne stavo discutendo. Va bene, è importante discuterne, insomma. Quindi perché è una roba lunga, Simone. Va bene, ringrazio Marco Cipolla, ovviamente andate, link nell'episodio, Pace Liquida e Byte, giustamente il libro, giusto? Yep. Benissimo. Ciao Marco, grazie di aver partecipato a questo episodio, insomma spero che anche tu, magari in altri ambiti, quando parleremo di narrativa interattiva in altri formati, magari se sei interessato, insomma, di ritornare a farci visita. Assolutamente, sicuramente per la puntata che diceva Puccio sul Cyberpunk. Io adoro l'ambientazione, i giochi e quant'altro, quindi sicuramente. Perfetto. Salutiamo anche Leonardo Tonna, anche detto Halloween o Ala, se andate a cercare Halloween su YouTube e lo trovate sicuramente, ma anche qui link in descrizione sulle note dell'episodio. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare sempre aggiornati su quello che succede. Grazie. Nel canale, ma veramente, perché è quello che non faccio io nei video in realtà. Esatto. Ma tu non dovessi ripeterlo ogni volta, carica, però non voglio proprio scocciarvi ogni puntata. Comunque grazie mille, sarà anche un piacere tornare, e in più vorrei aggiungere che sarà anche un piacere poi interfacciarmi con persone ferrate come Marco Puccio sulla questione cyberpunk cartaceo, quindi tra un giocatore del ci siamo sarà trovati. Interessante, sarà interessante scambiare magari anche, sì esattamente, magari conoscere di più la versione cartacea, capire quello che noi abbiamo avuto modo di giocare e quello che in realtà doveva essere il gioco in principio. Bene, sì, una vita abbastanza travagliata, che poi, molto realmente parlato, che poi mi fa veramente piacere, e questa è una cosa che ci riporta alla nostra vecchia tradizione dei podcaster, il fatto di permettere alle persone di incontrarsi, linkarsi, è sempre questa la cosa più bella che ci ha permesso per 10 anni di fare questa cosa. E 10 anni, ragazzi, fare una cosa impegnativa come il podcast senza avere comunque una vera e propria remunerazione, ragazzi, è veramente impegnativo. Io ci tengo, quest'anno noi festeggeremo il nostro 10° anno di attività con Runtime, che è quasi sfiorato insomma 1 milione di download, più il 1 milione di download che aveva già superato Italian Podcast Network a suo tempo. Quindi insomma, ragazzi, abbiamo fatto migliaia e migliaia e migliaia di ore di intrattenimento, e sono sempre contento quando ci scrivete, ci mandate comunque il vostro apprezzamento, le parole d'affetto che ci mandate, perché insomma sono la linfa vitale per quanto riguarda noi. Saluto e ovviamente ringrazio anche Valerio Valenti, in arte Ciriola Let's Play. Andate anche qui, note nell'episodio, link al suo canale YouTube, se no cercatevelo, ma comunque note dell'episodio, anche qui iscrivetevi, attivate la campanella, così rimanete sempre informati per quanto riguarda ovviamente tutte le sue pubblicazioni, che sono quasi quotidiane, no? Non sbaglio, no? Giusto? In genere sì, ok. Grazie Valerio, veramente è stato un piacere per me conoscerti, anzi è stato un piacere per me conoscervi. Marco lo conoscevo già, quindi cioè nel senso è un piacere comunque conoscerlo, però già lo conoscevo. E grazie veramente a tutti quanti, e grazie ovviamente a Puccio. Ci vediamo insomma la prossima settimana, come abbiamo detto, su una puntata più generica rispetto a questa, come sarà questo format, quindi alterneremo puntate specifiche a puntate, diciamo, con un tema conduttore ma più generiche, e ci vediamo insomma la prossima settimana. Voi aspettate un secondo qui che fra un po' torno da voi, e ci vediamo quindi la prossima settimana. Ciao a tutti. Grazie per averci seguito, per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.